ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto. Io non ho capito una ci cosa. Ci vediamo in tribunale, cosa c'entra? Pezzo di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. Maledetto. Maledetto, che tu sia maledetto, maledetto per quello che hai fatto, schifoso. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora guarda, grazie per avermi fatto entrare nel circo, perché Confindustria è il padrone del circo. No. Te naturalmente sei il domatore, manca il pagliaccio, ma quello è il signor Parenzo. Io sono autotrasportatore. Fascista? Devi... No, fascista no, ma lasciamo perdere. Che signor Francesco, se non si può permettere di insultare un poraccio che sta lavorando dicendogli vai a sbattere su un guardaraglie, vai a fare questo e vai a fare quello. Cruciani, io vorrei capire perché tu ci devi sottoporre oramai con una cadenza di due volte alla settimana, cosa sì. Secondo me molto sospetta, Cruciani, molto sospetta. Vorrei capire perché tu ci devi sottoporre a questa tortura di sentire la Martani parlare di una pandemia. Ti rendi conto che sei una sciroccata che viene invitata nelle trasmissioni degli sciroccati? Ti vuoi trovare un mestiere che non sia coprirti di ridicolo su Canale 5 e davanti a Cruciani, sperando che un giorno Cruciani ti conceda quella parte del corpo che tu brami da Cruciani? E certo, tu secondo me fai tanto la wah-wah sul virus, perché lo sai benissimo che puoi chiamare a raccolta tutto il popolo che vuoi, ma con la puzza di cane e di gatto che ti trovi addosso non ti si avvicina neanche il borbone che c'è qui accanto a casa. Quindi se cazzo chiami a raccolta, quale popolo, Martani? Giovanna d'Arco. Stamattina conferenza per noi quadri delle poste, e chi mi ritrovo nei video? Parenzo. Parenzo ha fatto la marchetta anche alle poste. Incredibile. Mamma mia, allucinante, mamma mia! Pure le marchette, pure no, le ma marchette! Non, nessuna marchetta, anzi, nessuna pure marchetta, le marchette a pagamento, un a pagamento! Popolare, in diretta da Roma, David Parenzo! L'Austria, l'Austria il 27 dicembre torna in lockdown totale. Negozi, bar e ristoranti. Parlo quanto solo dell'estero godi, io. Quanto godi? No, per nulla, quanto ma per godi. Dire l'Austria. Sì, l'Austria. Godi, vieni qua! Il 27 vieni, dicembre vieni. Torna in lockdown totale. Negozi, bar e ristoranti mamma chiusi, mia. Coprifuoco di 24 ore al giorno. Terzo lockdown per l'Austria. Senti, senti terzo come gode, lockdown. Senti come gode. Senti come viene solo, quasi. Ma per te c'è un di godimento, no, per te un godimento. È una notizia, appunto. Per te un c'è godimento. Solo chi avrà un esito negativo potrà uscire dal 18 gennaio in poi, quando i ristoranti riapriranno. Cioè dice l'Austria, chi non si sottopone al tampone rapido resta a casa per un'altra settimana in quarantena. Sgarbi alla camera cioè, oggi, iniziamo subito è così. L'Austria. Sgarbi, sgarbi l'Austria. Alla camera oggi. Sgarbi l'Austria. Alla camera oggi. Gottardo oggi assente. L'Austria. Sgarbi presente. L'Austria. Gottardo l'Austria. Assente. L'Austria. L'Austria. L'Austria. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sentita la discussione ho ritenuto necessario intervenire per chiedermi perché in quest'aula in cui siamo da mesi non c'è uno strumento di sanificazione stabile come in grandi industrie come la Nestlé, come la Montedison. Ci sono due mondi, quello della finzione, del teatro, di un pessimo governo. No, ignorano completamente la possibilità di sanificare ambienti chiusi per renderli immuni al Covid. È grottesco la insufficienza di misure adottate nei luoghi del lavoro. È una denuncia fondamentale per capire che qui stiamo recitando la parte di chi vive un dramma che potrebbe essere stato superato da almeno sei mesi, da almeno sei mesi. Vigliacchi, incapaci, nemici del popolo. Però Sgarbi è un po' in contraddizione, perché da una parte dice che non bisogna avere paura, poi dice che bisogna sanificare la Camera dei Deputati. Infatti non riesco a capire. Un altro protagonista di oggi, caro Davide, inutile dirlo, è Ciocca. Tu lo conosci il signor Ciocca? No, per me è l'Austria, Ciocca. La protagonista della notizia, no, il signor Ciocca è parlamentare europeo, sì, della Ciocca, Lega Nord, sì. Conosciuto e pluricitato nel mio libro I falsari. Vabbè, ma Ciocca è uno che a un certo punto ha preso la sua scarpa, l'ha messa sopra un tavolo per protestare. Forse può fare un po' di politica così, anche spettacolo, certo, la può fare o certo, no? E cioè, dai, poi su. Ovvio che noi ne parliamo solo per quello, non è che ne parli normalmente, non è che parleresti di Ciocca. Senti qua, se si ammala un lombardo vale più di un laziale. Cioè, un lombardo ammalato costa al paese molto più di un laziale, perché è molto più produttivo. Ma che follia. Non è pensabile che la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti del Lazio, possa ricevere meno dei vaccini del Lazio. La seconda è quanto economicamente quel territorio è importante, e quindi la Lombardia è un dato di fatto, è il motore di tutto il paese. Quindi se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala un'altra persona di un'altra parte d'Italia, addirittura. Però è un dato di fatto: se si ammala un lombardo economicamente da imprenditori, vale di più rispetto a un laziale. Ho capito. Cioè, se si ammala, lui dice, se si ammala un lombardo economicamente da imprenditori, vale di più rispetto a un laziale. C'è un lombardo che sta male di Covid, che muore di Covid, ma vale molto di più di uno del Lazio, di un ministeriale del Lazio. Questo perché è il signor Ciocca. Cosa vuol dire signor... Posso dirti la verità? Allora, secondo me, questo Ciocca dice una cosa un po' paradossale, eccetera. È chiaro che se crolla la Lombardia, da un certo punto di vista, se crolla la Lombardia, crolla il resto d'Italia. Quello lui vuole dire. Ma sì, è uno dei motori assieme al Veneto. Se si ammalano molti lombardi, ma se si ammala, ci rimettiamo di più. E infatti ci rimettiamo di più, questo vuole dire il signor Ciocca rispetto a un ministeriale. Però posso dirti una cosa: ti dico una cosa molto chiaramente: i vaccini, no? Perché devono essere dati per primi, per esempio, agli anziani? Beh, non ha ragione molto semplice, sì, d'accordo, parte debole, però, mi vale evidente, però anzi, posso dirti che vale messi in sicurezza per loro... il paese, per il paese è meglio darlo a una persona produttiva rispetto a un anziano. Eccolo qua, cioè, ecco il nazista, certo. No, ma questo non è nazista. Il nazismo, ma che c'è il nazismo? Io sto dicendo semplicemente le persone, una persona che produce, una ma persona scusa. Che produce, ma per non il paese tu quello che dice vale che quelli di più più rispetto, ma no, scusami, hai appena detto che quelli che giovani non hanno nulla da temere, e allora prenditi il Covid. Sto dicendo un'altra cosa. Io non parlo dei giovani vecchi, sto parlando delle persone che producono, che lavorano. Le persone che producono, che lavorano, vanno, che sono più a contatto con le altre persone. Che sono a contatto con le altre persone. Forse andrebbero vaccinati di più rispetto ad altri che magari non hanno contatti. Prima le persone che hanno malattie croniche. Sì, va bene, per carità. C'è un rider che fa le consegne. Non il tuo amico rider che si è già preso il Covid. Beh, appunto. Un rider che fa le consegne entra in contatto con un sacco di persone, magari andrebbero vaccinati questi qua, i corrieri. Vabbè, questo vale pure per i vecchi. Tutte le categorie vabbè, sono a contatto con qualcuno. Ma che vuol dire? Vabbè. De Luca, ragazzi, il governatore del mondo, che ha parlato tra l'altro anche di vaccini, del mercato nero. Se faccio un cenone con 20 persone, poi c'è la terapia intensiva. Ecco il terrore. Ecco il terrore, ragazzi. È un dato. L'Italia al chiuso, 20 persone, l'unico paese senza nel mondo, è l'unico paese nel mondo, ve lo dico, che molto probabilmente oggi decreterà tutti chiusi per non so quanti giorni, per 10 perché giorni. Negli altri da qui. Paesi dicono che non possono negli andare a cena in più di due. Si può uscire. Ma non si può andare a fare assembramenti a casa noi della gente. Noi saremo tumulati dentro. Questa per è la tua idea che di la gente vada questa in massa a casa di altre in persone. In altri paesi si può uscire da casa. Noi ma ci sono i controlli. Non si può uscire. Ci vergogna. Sono i controlli vergogna. Anche negli altri paesi vergogna. Per non andare a casa vergogna. Di altre persone a infestare. Ci sarà un dispiegamento di polizia come non c'è mai come stato, nemmeno per la cattura come in Austria, di boss mafiosi. Ma figuriamoci, come dappertutto. Dal 27, quello come che dappertutto. No, lockdown totale. In Germania in ci si può spostare, in Francia ci si può spostare. Ci saranno controlli in tutti i paesi del mondo. In quanti si spostano? Perché se trovano sei persone in una macchina, gli dicono scusa, dove stai andando? E lo multano. Perché se io in nome dell'umanità faccio il cenone di Natale con 20 familiari non conviventi, non sono stato più generoso e umano, sono stato più irresponsabile, perché magari i miei genitori, i miei nonni, i miei figli vengono invitati ad un pranzo rispetto al quale dopo due settimane probabilmente andranno in terapia intensiva. Ma che è sta cazzata? Ma che è molto grandante? Ma chi te l'ha detto che andranno in terapia intensiva? Ma succeda, è un terrore, ma è come terrorizzare la gente. Ormai l'abbiamo capito che può accadere, guarda, no? È pazzesco, lo sappiamo. No, è pazzesco la memoria che ti manca di ricordarti quello che è successo e che sta succedendo in Veneto ora. Adesso non vale la storia, adesso puoi andare da nonni, dopo non ci puoi andare. Zaia. Fino al 23 ci puoi andare, dopo non ci puoi andare. Ma no, è perché la gente si sposta di più quando c'è la vacanza, no? Adesso c'è ma la corsa. È la logica che ti adesso manca. È la corsa in questi giorni sbagliata. C'è la corsa al sud. La corsa al sud, vergogna. È sbagliata, però almeno hai qualche giorno, perché se ti sei tamponato oggi e vai a fare. Ma chi te l'ha detto? Nessuno, no, non c'è l'obbligo di nulla. Se uno intelligente, però siccome tu non sei uno stupido, se uno si tampona oggi e vai dai nonni il 25, almeno a sei giorni per sapere che è pulito. Ma dobbiamo dire in maniera brutalmente chiara che questo momento di eventuale raccolta di tutti in famiglia significa aprire le porte di nuovo per le terapie intensive e per la morte per tante persone anziane. La morte. Moltiplicate per queste cose per milioni di famiglie e vi rendete conto di quello che può succedere. Altro che umanità e generosità. La cosa incredibile. Stessa cosa è data Merkel. No, ma la cosa incredibile. Stessa cosa sì, è data Merkel. La cosa incredibile è che il suo superiore di sanità, il signor Brusaferro, dice che la curva è decresciuta. Cioè che la curva, dunque, queste robe qua sono tutte. Che la curva è decresciuta. Però bisogna fare attenzione, rigore, va bene, d'accordo. Però la curva è decresciuta, lo dice lui, è calata, lo dice lui, signor Brusaferro, il tuo amico Brusaferro, tu che sei il manutengolo. Tranne che in alcune chiedi a Zaia. Zaia vuole chiudere tutto. Mamma mia, ragazzi, perché, mamma mia? Più, non ne ma posso più. Ma tu hai più. Capito o no? Non che ne posso se ti fai, più. Te ne dico una cosa più. Molto semplice. Giù, se tu... giù. Dai, regia! La Zanzara. I'm a vampire. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. E come mai, dopo gli assembramenti a Napoli per la morte di Maradona, a tre settimane di distanza, non è ancora scoppiato un boom di contagi, un focolaio? E come mai? O tampone negativo, accattativillo. Il suo intervento, ricondiviso dalla pagina della Lega su Facebook, mamma mia, che tristezza, Cruciani, ti sei venduto per quattro spiccioli, alle destre, in una parte che manco tu ci credi, lascia perdere. Pazzesco. Ma quelli, pazzesco. Scusa, la pagina della Lega, non so la chi pagina della Lega retweet di Salvini Premier ha ritwittato un tuo intervento demagogico di ieri. Ma che demagogico? Segnalo, un intervento fondamentale che a me, del governo. Voi mi dite sempre che io sono di sinistra, proprio. Nessuno ha mai ritwittato. Beh, no, una volta il PD l'ha fatto. Te ogni volta che interviene in televisione, andate a vedere, la Lega ti ritwitta sempre. Ma qualche volta ora, succede, carità, chi se ne frega. Nulla di male, chi se ne nulla frega. Di male. Ma si sa quale area appartieni a questo punto. Ma forse punto. È a me, vero. Il dato ma lo fanno che con tutti, lo fanno, ma lo fanno con essere... tutti. No, ma non con tutti, con tutti chi lo fa, con tutti quelli che la pensano come loro. Ma no, ma in questo caso utilizzano una mia sparata contro il governo per metterla sulla loro pagina. Esatto, ma chi se lo ne frega? Fanno con quelli che loro pensano ma come loro mai? A me, a sinistra, nessuno per fortuna lo ha mai fatto. Ma non l'ha fatto perché non utilizza i social come li utilizza Salvini, no, questo è il punto. No, dai, come su, no, ma come no, mai? Come no, dai, di fatto, nessuno a me, ma mai ritwittato i miei interventi. Ma per fortuna, dico io, per fortuna. Ma non dire cazzate. I tuoi sempre. Andate a vedere. Intanto, intanto c'è il grande ritorno di Petrella, ragazzi. Il grande ritorno del maestro Petrella. Roberto Petrella, ex medico defenestrato dall'Ordine dei Medici, antivaccinista. Il Covid non esiste. Covid-19, la catastrofe provocata dal virus che non c'è. Questo dovete dire. La vostra cura migliore non è quella di dare corretta informazione, ma creare ansia, depressione, malinconia, tristezza, paura, tormento interiore. Sui mezzi di informazione, hai sentito, si creano ansia, paura, tormento come interiore. Te la pensa questo qua? Poi una cosa molto grave, dice questo medico, metterei la annunziata a testa in giù. Senti, metterei la annunziata a testa. Signor Petrella, signor Petrella, questo è grave, Petrella, eh? Perché questi attacchi non servono, dai, queste cose violente. Come quella giornalista che fa mezz'ora, che io non vedo più, la quale ha detto che dovete venire a prenderci per il collo, venite. Io invece metterei lei con la testa in giù, con le gambe appese, quello farei io, per farsi rimanciare la stronzata e la cattiveria che ha detto in televisione. Nessuno vi parla della pericolosità del vaccino, signor Petrella. Si presenta davanti alle telecamere, caro Davide, con un camice bianco, sempre, signor Petrella. Beh, un avrebbe denunciato per abuso della professione. Certo, è abuso della professione, non è più medico. Petrella, non può. Ma è un grande comico. Se un non camice bianco, no, deve mettersi un. No, un camice bianco, una camicia di forza, camicia bianca, di forza bianca. Quella sarebbe cioè, corretta. Bianco sempre, però la camicia di bianco forza. Bianco sempre, dici. Però di quelle cose che si legano dietro, non davanti. Con le mani, dietro, con le mani bloccate. Come le statue egizie che sono messe con le mani incrociate sopra. Ma perché le spalle? Vuoi prendere Petrella e portarlo e fargli un TSO? No, perché se te lo dai la TSO? Matto, perché è matto. Cioè, secondo te la TSO? Ma non solo secondo me. Guarda, non penso di essere solo, cioè, in questa cosa. Tu dici cosa. Che il sindaco di Teramo dovrebbe fare un TSO. Ecco, questo è interessante. Essendo di Teramo, secondo te bisognerebbe intervenire su Petrella. No, che si presenta in televisione. No, quello no, non serve. Vai fino il TSO, in fondo. No, il TSO. Vai fino in fondo. Il secondo TSO te è ci un vuole un TSO. Estremo. No, se pensi che sia pericoloso, io, grave. No, io penso che sia di questa trasmissione, qui. Questa trasmissione. La radio sta qui, cioè, la Zanzara sta bene. A me va fatto un TSO, dici. Sala dovrebbe fare un TSO. No, te. Cioè, secondo te Sala anche dovrebbe farmi un TSO? Beh, cioè, dovrebbe, strano che non sia stato fatto prima, perché sì, spargi mala informazione, notizie false. Cioè, mando in onda queste persone qua che creano terrore. Dunque, sì, secondo loro te creano Sala terrore e danno notizie e secondo sbagliate. Te Sala dovrebbe farmi un TSO, cioè potrebbe farmi un TSO. Guarda, sì, sostanzialmente, ma però il povero, come si chiama questo qui? Ha detto questo matto qua, Petrella, come si chiama? Petrella. No, ma Petrella va semplicemente abbracciato, con la mascherina, va coccolato, tenuto stretto al petto e abbracciato. Comunque, secondo me Fracero ha in serbo un grande format per questo Natale, in lockdown, eh? Tutto chiuso. Perché lei, insieme a tutti gli altri, io poi farò un video delle che cosa succede con il Covid, il vaccino del Covid-19, la pericolosità di questo vaccino, le complicanze di questo vaccino che voi non dite in televisione, lo dirò io. Solo per dare i soldi a Bill Gates, Petrella. Il Covid-19 è la catastrofe provocata dal virus che non c'è, ma serve a far diventare ulteriormente miliardario il Bill Gates. Ti piace? Gates. Per sapere il nome giusto, chiedilo a quello che chiamate sempre in televisione, Calabrese. Questo nome mi fa venire i brividi. Per questo io lo chiamo come voglio, Gates. Hai capito, Formì? Bene. Comunque, vedi che si piglia pure per il culo da solo, dai, su. Allora, ragazzi, dove andiamo? Piero, provincia di Forlì, vai. Piero. Ciao Cruciani, ciao, dimmi, Cruciani, buonasera. Io sono uno dei 10 coglioni che ieri era davanti a voi con i manifesti tipo Homeless, che rappresentava le palestre italiane. Ah, sei uno di quelli che ha aperto la palestra anche se non si poteva aprire? Io sono l'unico che ha parlato, purtroppo, dico purtroppo. Cioè tu sei uno di quelli, c'è uno di quelli che aveva una, cioè, ha una palestra e sta aprendo, ha aperto prendendo una multa nonostante i divieti del governo, è così? No, sono un suo caro amico, sono stato suo ospite, perché ovviamente bisogna fare sempre gesti eclatanti per essere poi in televisione. Io invece ho mantenuto una linea morbida e sono stato invitato da questo. Vabbè, mio amico, ma qual è il punto, Piero? Dimmi. Non c'è il punto. Il punto è questo, che sostanzialmente il ministro Spadafora, che credo che... Sì, ma secondo te dovrebbero rimanere aperte le palestre in questo periodo? No, allora abbiamo sicuramente dei problemi enormi di carattere economico. A proposito di ristori, non sono neanche arrivati gli spuntini dell'autogrill. Cioè, secondo te, Davide, io non ho capito una cosa: chi apre le palestre adesso è un criminale? Cioè, chi apre, ma si non fa ha nessun senso aprire le palestre. Io sono uno che va in palestra, ho l'abbonamento in palestra, peraltro, come ben sai. Inutile abbonamento, perché sei ingrassato come una bestia. Però è inutile. È stato sospeso l'abbonamento e quindi aspetto che riapra. Ma oggi riaprire le palestre sarebbe una follia, però. Fermi là. La Zanzara. There's a place off Ocean Avenue where I used to sit and talk with you. We were both 16 and it felt so right. Sleeping all day, staying up all night. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fa l'800240024. Oppure se lui ti mandano i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ciao Parenzo, senti, io ti stimo alcune volte, però devi smetterla di dire cazzate, devi scendere in mezzo alla gente e capire. Io ti parlo di mio fratello, che è un imprenditore, ha chiuso, fa i tatuaggi, ha uno studio, ha chiuso a marzo, ha riaperto a giugno. Sai quando gli hanno dato in 4 mesi una volta sola 650 euro? E vuoi sapere un'altra cosa? Si sono succhiati dal mio conto 700 euro di arretrati praticamente da marzo a giugno, che sarebbe la scuola, l'asilo nido, la retta, che ovviamente non avevo pagato perché la scuola era chiusa. Hai capito? Questa è l'Italia. Volevano andare tutti a pranzo per Natale da nonni, ma se per 364 giorni all'anno non gli è mai fregato un cazzo dei nonni, che ci vogliono andare proprio ora? Parenzo, ma vattene a fanculo, non ce n'è mai una volta che vai contro il governo. Stanno facendo delle cose assurde al governo, non ti ho mai sentito dire una volta dar contro al governo, sempre giustificare. La gente scoppia, non ce la fa più, c'è tanta gente che non ce la fa più economicamente, scoppia la gente, scoppia. Ma poi tutta sta rottura di cazzo per il Natale del cazzo, ma chi se ne fotte del Natale? Va bene la libertà, tutti vogliamo essere liberi, ma se la mia libertà va a contagiare e va a star male una persona che per un mese sta in un letto di ospedale con un cazzo di casco, io non voglio creare questa situazione, quindi me ne strasbatto del cazzo di Natale, ma chi cazzo se ne frega? La cosa tragicomica è che stanno mettendo in piedi, poi vedremo, delle regole incredibili e inapplicabili. Sentite un po', chi potremmo invitare alla nostra tavola di Natale? Dipende a casa di chi lo faremo. Il mio nucleo familiare è convivente di 4 persone, marito, moglie e 2 figli. Possiamo invitare per Natale i nonni? Sì, ma solo 2. Come solo 2? Solo 2, ma sono 4 i nonni se ci sono, naturalmente. Solo 2. La deroga che il governo ha immaginato consente di poter ricevere a casa nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa fino a 2 persone non conviventi, con la forte raccomandazione di mantenere le distanze e indossare la mascherina. E se invece i nonni non se la sentono di uscire, possiamo andare tutti noi a trovarli e pranzare da loro? Dipende dall'età dei figli. La deroga infatti è basata sullo spostamento e va dunque applicata alle persone che si mettono in movimento ed escono da casa nonostante il divieto previsto dalla zona rossa. Perché si pensa che e i ragazzi particolare... sotto i 14 anni non abbiano una carica virale così potente come quella tra i 14 e lo puoi e fare una sola volta durante la giornata dalle 5 alle 22. Beh, sì, ma come fanno evitare... a controllarlo? Come fanno a controllarlo che mettono in bollino? Ma questo deve essere il buon senso delle persone, però, appunto. Quindi se una famiglia di 4 persone con i figli sopra i 14 anni vuole fare il pranzo di Natale con 2 nonni, come come deve organizzarsi. Può farlo solo se i nonni, se sono i nonni a spostarsi, e solo due poi, con due nonni, non con quattro, con due. Se invece il pranzo si fa a casa dei nonni, il nucleo convivente non potrà muoversi per intero e dovrà dividersi. Ma i nonni si muovono a due a due. Pazzesca. Posso invitare a pranzo anche il mio partner, sì. La deroga agli spostamenti della zona rossa aveva riguardato anche no, i partner. Non certamente gli amici, dunque i partner sì. Gli amici no. Le forze dell'ordine potranno bussare alle porte dei cittadini? No. L'intervento no, delle forze dell'ordine no. È possibile solo se vi è il sospetto che in un'abitazione si stia commettendo un reato. Come è successo in Spagna? Un reato. Oggi. Come in Spagna oggi. È una cosa incredibile. Ma non è incredibile, è un principio che uno deve capire, basta. È il burocratese puro, è il puro burocratese. Ma non c'è, sono delle regole di assoluto buon senso che famoso, abbiamo imparato in questi mesi famoso, di pandemia. Il famoso, cazzo, il famoso modello Italia, no? Cui ci ispiriamo, il modello Italia. Abbiamo superato anche il Perù, siamo terzi al mondo, c'è anche San Marino, c'è anche San Marino che non conta. Terzi al mondo per numero di morti. Non sono in grado di darci nessuna lezione, ci restringono in casa questi buffoni. L'Austria, siamo terzi al mondo, ma chi lockdown, se ne frega di quello L'Austria, che farà tenendo aperte le piste da sci no, le vogliono chiudere, si sono svegliati, le vogliono chiudere. Gianluca da Prato, leggi Gianluca da Prato, vai. Ma io non ho capito, tu hai il modello in mente che ognuno fa quello che cazzo gli pare, più o meno sì, più o meno sì, Gianluca, bravo, più o meno sì, perché non sai startene a casa. Gianluca, dimmi, Gianluca, te ne fai fregato un cazzo del Natale. No, perché amo la libertà, perché amo la libertà. Gianluca, ma non dire, puoi parlare il grillo parlante. Allora gli dici dai, al cazzate, grillo parlante, per favore, cazzate, che lui parla di modello alla tedesca. No, non parlo di modello. Okay, non parlo di modello. Ascolta, mai. Adesso. Non parlo di modello. Ascolta, ho detto che l'Italia non è stata parlare, un modello fallo parlare, sul lockdown. Fallo tant'è che gli altri paesi l'hanno anche imitata. Sì. David, ti stai anche simpatico, però fammi dire questa cosa. Comunque l'Austria, sì, lockdown. Giù. Ok, benissimo. I soldi il giorno dopo, va bene? Esatto. Io faccio ascolta, io faccio l'agente di commercio. Ho ancora da avere 5.100 euro per il fondo perduto. Questo da un male, mese. Certo. Ma non male, è la cosa fondamentale. Gli altri chiudono per darci i soldi. È cazzo, certo, ma è sbagliato, è l'unica cosa, una delle, delle cose che conta. Dai, questa su. È una delle, ovio che è sbagliato. Dai, vai, vai avanti, Maurizio, vai. Nessuno vai, può difendere vai una roba simile, ovvio. Ma i soldi nessuno può arrivare difendere, è la cosa fondamentale. Fondamentale questa, fondamentale. Se chiudi, devi dare i quattrini. Maurizio deve avere i quattrini. Come rispondi a Maurizio che deve avere i quattrini? Come rispondi a Maurizio che deve avere i quattrini? Caccia fuori 5.000 euro per Maurizio. Caccia fuori 5.000 euro. È tutto aperto. Vergogna. Ciao Maurizio. Ciao. Gianluca. Inizierò a fare anch'io così, vergogna. Gianluca. Perché è più facile. È facile. Voglio gli applausi anch'io della gente. Maurizio da Prato. Maurizio da Prato. Voglio andare con nonna le precauzioni, libertà e prudenza. In casa, questo, ma scusa, ma perché liberi non armati, stare dicevo in una casa volta, libertà e ma prudenza. Non ho capito, libertà non possiamo e prudenza. Stare chiusi in casa in 10 a fare una cena. Maurizio da Prato. Maurizio. Io voglio andare a casa, no, io non con la faccio 10 cena persone. 10. Ah, e come? Perché cena 10? 10 non la faccio. E 6 no? 4. Ho detto libertà 6? E prudenza. Libertà e prudenza. Ma una, no, io voglio fare Maurizio la cena. Maurizio da Prato. Invece qui Chiavistello. Chiavistello. Io voglio fare la Maurizio, cena in otto. Dimmi, apritemi. Giù, Maurizio. Scusate, posso parlare? Sì, se Parenzo ci consente, dimmi. Bene, allora, vorrei dire al signor Parenzo che... Ma io voglio fare le cene con otto! Giù, Maurizio, no, fai parlare Maurizio, cazzo! Maurizio, aspetta, dimmi, ma dai! Perché Parenzo, secondo me, ci ha fatto mio un dimmi, dai, in questi giorni. Ma scusami tanto, Parenzo, ma se il nostro governo fa una legge che dice che fino al 21 la gente si può sparpagliare come sì cazzo e dove gli pare e piace... Sì, ma... E io parlo da ristoratore, è che 2 mesi e sono a casa con 7 ragazzi che ho nel cuore. Si presuppone che la gente dal 23 in poi si muova, no? Come? Ma questo è, purtroppo è chiaro. Perché un, no, un tempo lo devi dare, no? Parenzo, allora? Fammi ragionare sempre perché tu sei in radio. Fammi parlare anche a me. Vai, veloce però, dai. Sì, sono 2 mesi che noi siamo tutti a casa. Questi fenomeni ora fanno il rimescolone un'altra volta, poi per le feste tutto chiuso, e perché ci vuole la prudenza, per l'amor di Dio, a gennaio terza ondata ce la rimettono nel culo un'altra volta. Ma certo. Ma noi dove cazzo, no, però scusa, andare? C'è un piccolo dettaglio. Ma certo. Se uno oggi, io conosco molte persone che oggi, no, aspetta, molte persone vogliono andare a trovare i nonni. No, ma aspetta che te lo dico, l'abbiamo capito. Ci sono molte persone che vogliono andare a trovare i nonni no, al sud. No, ma questo qua cosa è un ristorante. Fanno il tampone oggi, stanno a casa e tra 6 giorni vanno, così sono puliti. Ma non mi fanno andare nello stesso comune a casa a mangiare dai miei genitori. il giorno di Natale. Che cazzo vuol dire se mi sposti il 21 o il 25? Il cazzo di virus c'è lo stesso. Ma di no, che ma cazzo stiamo parlando? Ma questo è ovvio che ciao, c'è lo stesso. Maurizio, ciao Maurizio, ciao grande, ciao, ciao. Federico da Milano, avanti tutta, avanti tutta, ciao, ragazzi. Voglio andare a cena con sei persone. Avanti tutta, Federico. Grande Cruciani, anzi, grande Cruciani. Libertà, libertà, libertà. Vai, Federico, dimmi. Prima vedi, libertà però... con prudenza, libertà con prudenza. Sì, va bene, sì, va bene. Sì, ce l'ho con quei due padovani. Sì, non c'è il secondo oggi, non c'è il secondo. Ah, va bene, scusate, vi seguo sul posto. Vai, dimmi, dimmi, dimmi. Ma che cazzo vuole Parenzo contro Fedez? Che è un milanese che dà dei soldi a dei milanesi per beneficenza. Ma poi io ho criticato cazzo, cosa la, vuole? La smargiassata. Io ho criticato la smargiassata barocca di Fedez. Di per sé mi sta anche simpatico perché mi piacciono le sue vabbè, canzoni. Ma sei un provinciale. Come no? Io sono anche al concerto con mia figlia tu di Fedez. Che c'entra provinciale? Però scusa, perché c'entra il provincialismo? Però scusa, che c'entra? Perché fa? È il provincialotto arricchito. Ti spiego perché. Tu sei provincialotto. Tu lo sei, capisci? Essere, ma insomma, ma non arricchito almeno. Ma almeno non arricchito, però. Capito? Provincialotto, ma almeno calma, non arricchito. Calma, calma. Già ricco, almeno però non arricchito. Perché provincialotto? Che c'entra provincialotto? Non il provincialotto arricchito. Ma tu proprio me lo dici che sei capitolino, grande Cruciani, cazzo. Aspetta. Il provincialotto arricchito, che cosa fa il provincialotto arricchito? Fa la smargiassata, perché ha un po' di soldi e quindi nel suo stile, distribuisce pacchi. No, ma a me non me ne frega nulla, ho commentato il fatto e basta, non me ne... dopodiché me ne sono già dimenticato, allora, e non me ne frega nulla, oggettivamente. Il mondo gira perché ci sono le economie win-win, dove non perde nessuno e vincono sì, tutti, ma capito? Qui non stiamo parlando di questo. Adesso, Federico, stiamo parlando di un'altra cosa. Comunque, voglio segnalare a Parenzo che si è messo insieme con sette persone. Si è messo insieme al Codacons, che ha accusato Fedez e che vuole denunciarlo. Vabbè, perché quindi dice che c'è, fa una beneficenza per marketing e pubblicità ma occulta ad male? Una macchina. Cosa c'è di male nel marketing? Me lo dovete spiegare. Ma a me lo dici. Ma nel marketing nulla. A me lo dici. Ma nel anche insieme nulla, ma anche smargiassata. Federico, anche insieme alla beneficenza va bene il marketing. Questi ma moralisti certo, che in questi giorni rompono i coglioni su questa roba qua non fanno un cazzo. Io non faccio un cazzo e lo dico apertamente che non faccio un cazzo. Lo dico apertamente e faccio marketing probabilmente anche sul fatto che non faccio un cazzo. Cioè faccio marketing dicendo che non faccio un cazzo. Dunque esalto. Ma perché sei un genio? No, ma lascia perdere, genio o non genio. La cosa fondamentale è questa, che quello là fa marketing. Che dico, può darsi facendo beneficenza, e ma allora qual è il punto? Ma chi lo dice? Ma chi lo dice? Ma io ho dato un giudizio estetico. Ma chi lo dice che è cafone? Ma chi lo dice che è cafone? Scusami, posso dire che uno che fa una roba così è un cafone? Sì, posso dire che è un cafone? È un cafone. Poi continuasse a fare il cafone, che me ne frega a me, contento lui. Ma cosa ne sai di cos'è un caffone e cosa ma non è un caffone? Secondo dici, i miei canoni è un caffone. Io non farei mai una cafonata simile. Tutto ma qua. Certo, perché adesso vabbè, ma non tu voglio non sei, ma infatti tu non sei Fedez o non sei uno come ci lui, fai un'altra, fai un altro tipo di roba. Ognuno fa beneficenza adesso, come cazzo. Un altro tipo di roba, però una lira non la caccia neanche morto. Non è sicuro. Che però tutti. Beh, questo lo dice lei. Ma ecco, diciamo beh, una cosa: vediamo, io non metto i manifesti quando faccio una beneficenza. Ma anche chi li mette, qual è il problema? Ma non è questo il tema, però. Qual è il problema? Allora Bill Gates che ha dato non so quanti milioni di euro all'OMS o fa beneficenza e lo dice. Qual è il punto? Ma che c'entra? Ma fa marketing anche facendo beneficenza, Parenzo, no? Si fa un nome anche. Ma no, ma lascia perdere il provinciale che non c'entra un cazzo. Lui ha dato. No, ma guarda che il problema, secondo me il problema di fondo è proprio no, questo. Aspetta, cioè questi sinistrosi che rompono i coglioni alla gente che fa ma del bene. Guarda che qui non c'entra sinistra. Qui in questo caso però non c'entra un cazzo. Ideologizzato da questa roba, perché anzi Fedez è molto amato dalla sinistra, non vuol dire niente. Io ho dato un giudizio estetico. Ad esempio, sentendo te, io ti arrivato Zecchi. No, giudizio estetico. Sì, un giudizio estetico su un atto che mi sembra una smargiassata. Mi piace sto Federico. Tu mi sembra una smargiassata. Tutto qua, poi a te piace perché sei un cafone, va benissimo. Ma cosa fai, ma cosa ne sai di cosa? Sei ma cosa un ne cafone sai anche cafone come no? Parli. Sei una cafonata vivente. Già ma chiamare senti, guarda, qui io è faccio, da cafoni, guarda, secondo me. Veramente, Parenzo, sei una persona. Cioè, veramente... un conto è quanti farlo da pagato. Un conto è chiamare gratis. Ma 23 anni ti devi inchinare di fronte a Federico, tu. Questo ti dà l'idea di quanto sia idiota. Come no? Mio padre, ma se tu mi sentisse parlare così mi farebbe il culo. Ma io sono sei... da Bocconi. Ma non c'entra, ma sei un idiota perché telefoni qui. Tu sei... Io almeno sono pagato per risponderti. Tu gratis telefoni qui per farti insultare. Sei un ma coglione al cubo. Ma infatti, ma mi fai sei un coglione al cubo. Io almeno sono pagato per ascoltare le tue stronzate. Tu gratis telefoni qui. Sei un coglione oltre che un cafone. Secondo me, Federico, non ti fare mettere i piedi in testa da Parenzo. Una persona educata non ci avrebbe mai qua. E ti stai facendo mettere i piedi in testa da Parenzo, che ti ha aggirato con questa roba qui di chi chiama qui. Non chiamerebbe mai qua. Sono orgoglioso, di chiamare qui per mandarti a fare il culo. Ma voi siete dei, voi mi fate passare gli esami. Ma tu sei un cafone. Vedi, studia come un negro. Dice studia come un negro. Sì, studia come un negro. Sei un cafone. Perché non si può dire. Non si può dire studia come un negro. Studia come un negro. Si può dire o no? Perché vuol dire che i negri faticano. Si può dire studia come un negro. Si può dire. Non vuol dire che, perché è sinonimo di fabbrica. Di lavoro. Abbiamo Federico, abbiamo l'approvazione di Parenzo su studia come un negro. Sinonimo di fatica. Se non c'avevamo l'approvazione ci dovevamo preoccupare. No, per carità. Comunque Federico, sei un coglione. Io almeno sono pagato per mandarti a fare in culo. Tu sei un pirla, chiami gratis in un posto di pagliacci. Complimenti. Guarda, tu sei sempre ben accetto a Milano, sempre, ma non hai capito un cazzo. Ma io ho vissuto a Milano 10 anni. Ho vissuto a Milano 10 anni. Però la beneficenza non c'entra nulla con Milano, Federico. Aspetta un attimo, fermo. Invece secondo me sì. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. La Zanzara. Ciao, vi saluto da Hong Kong, penso di parlare a nome di tutti fuori sede che non riescono a rientrare in Italia a Natale per questa cazzo di pandemia di merda. Vi chiedo per cortesia di tenere aperta questa disgraziata emissione anche il giorno di Natale. Tanto si sa che Parenzo è di un'altra azienda. Ai parenti di Cruciani facciamo solo un favore se lo teniamo lontano da casa. E Gottardo, che cazzo vuoi che lo inviti a Natale? Mamma mia Parenzo, quanto sei bigotto. Sei proprio, guarda, mi ci scappa da ridere. No, dai, io posso aver fatto qualche beneficenza, ma non lo voglio dire alla radio che ho fatto beneficenza alla comunità di Sant'... Ma non lo voglio dire alla radio che io posso aver fatto qualche beneficenza alla comunità di Sant'Egidio, ma non lo dirò alla radio, non lo voglio... Parenzo bigotto! Comunque è incredibile ragazzi. Passano dei giorni in cui Gottardo è al centro di ogni attacco. Passano dei giorni in cui Parenzo è al centro di ogni attacco. E qualche volta, devo dire raramente, perché la fan base, insomma la fan base, sono al centro io degli attacchi degli ascoltatori. Perché tu molti... dici cose che a chi chiama qui piacciono. Ma non è vero, ma non è vero, ma figuriamoci. Cioè, qui chiamano soltanto degli squinternati che pensano come te che la libertà sia andare in giro a fare quel cazzo che ci pare. Comunque ragazzi, Gottardo mi ha mandato degli audio incredibili, ormai è andato completamente. E devo dirti questo, caro Parenzo, è andato. Beh, io questo lo sostengo da tempo, questo dicevo. Jacopo da Firenze. Mentre c'è in linea il signor Mauro da Mantova, che non vorrei a proposito di squinternati, appunto, partirei subito da Mauro. Mauro, mi raccomando, io voglio capire quello che dici, perché so che sei molto incazzato. Hai chiamato qui molto incazzato, mi ha anche mandato un messaggio, signor Mauro da Mantova. Però devo capire bene. Dunque, se hai qualche dente da mettere a posto, come diceva il signor Francesco da Firenze, mettiti bene sto cazzo di dentiera, così capiamo tutti meglio. Se no, non si capisce un cazzo ogni volta. Mauro, che è successo? Avanti, che è successo? Allora, andiamo lì a fare spesa. Io e il mio amico Mario, che qui alla guida, che è il mio autista, sì, personale. L'autista. Perché autista? Io posso. Oh, finalmente si sente bene oggi. Vedi, finalmente si sente bene oggi, Mauro. Non so perché. Allora, che è successo? Allora, l'autista. Andiamo al gigante. Sì, al gigante. Ma lei deve mettere la mascherina sopra il naso. Sì, certo. Senta, adesso io sono ischemico e quindi la mascherina non la tengo sopra il naso. Beh, ho capito, però la mascherina va messa bene, caro Mauro, perché altrimenti... No, signore, perché devi capire che quel coglione di Conte ha detto, tranne quelli che hanno difficoltà, sì, è un coglione. Ho capito, ma ce l'hai il certificato? Ce l'hai il certificato? Certo, ma c'ha 2000 malattie questo, cazzo, poveretto. Allora, cioè, gira con un pacco di certificati. Gira con una valigia di certificati. Di una valigia in cui c'è la cosa più sana che ha. La cosa più sana che ha è il rene che gli hanno tolto. In realtà. Non ha nulla, ha una valigia. Lui quando esce esce, aspetta, esce con una valigia di certificati, una valigia di stabilità mentale, zoppo, senza denti, senza reni, senza testa. Esce, cosa gli chiedi? Un certificato? Uno, ha una valigia, una valigia enorme, un calesse, un calesse di certificati, un calesse, quando gira deve portarsi dietro una carretta e il vigile gli dice: ce l'ha il certificato, guarda il calesse, un plico così, cazzo, di certificati. Aspetta, calma, uno, l'ischemia è la cosa migliore che gli è accaduta, il rene mancante, la gamba zoppa, il nervo sciatico, il coglione sinistro amputato. Si sentiva bene prima, Mauro, improvvisamente quando si incazza non si sente più bene. No, ma perché lui che è un deficiente. Allora, lui te l'ha detto, Frocciarenzo, ti ha detto quando gli hanno detto: ma l'idrossiclorochina è valida e funziona, cazzate. Infatti l'organizzazione della sanità italiana l'ha approvata. Sì, il consiglio... Chi? Allora, il Consiglio di Stato dell'idrossiclorochina, non lo so, però scusami, che è successo? Io voglio capire adesso, al di là delle tue... Che è successo ieri, al supermercato? Ieri, che è successo? Ieri ho chiamato Cartabellotta, non sono riuscito a beccarlo. Ma Burioni l'ho sistemato. In che modo l'hai chiamato? Scusa, come l'hai chiamato? Alla registrazione. Ma come l'hai chiamato? Dove l'hai chiamato? Al San Raffaele. Hai rotto i coglioni a Nino Cartabellotto. Anche a Burioni. Prima o poi lo beccano sistema. Ma non te coglione. L'hanno passato, però. Ma non chi? Te l'hanno passato. Dice: sono Mauro D'Amato, voglio parlare con Cartabellotto. No, mi hanno passato Burioni. Come mi ha passato Cindiglia, mi ha passato Cindiglia, ho sistemato pure lui. C'è la registrazione. Ti hanno passato Burioni. Ti hanno passato Burioni. Il signor coglione Burioni. Di qualcosa. Ti hanno passato. Tu passi la giompa. A rompere i coglioni alla gente che lavora, a chiamare i centralini, a rompere i coglioni, ti devono togliere il telefono anche, te lo devono togliere. Però scusami, Mauro, diciamo, con il peso di Mauro è anche strano che il Covid non l'abbia pizzicato, caro Davide. Io devo dirti la verità, non esiste il Covid. Non esiste. Ma vaffanculo, come l'hanno inventato le case farmaceutiche? Scusa, non ho capito. Ma siete così storditi! Ma credo di cola! Al Covid, porco! Porca ma puttana! Ecco, appunto, è meglio. Beh, tra tutte, diciamo, si è sospeso un attimo. Meno male che, diciamo, queste piccole ischemie hanno avuto effetto e hanno bloccato l'esternazione della bestemmia. Queste piccole sante ischemie hanno bloccato l'esternazione della bestemmia. Però, Mauro, scusa, ma non ho capito. Tu sei uno di quelli che pensa che tutto è stato organizzato dalle aziende farmaceutiche, dalla... Ma va? Voglio capire, il signor Mauro D'Amantova è però in buona compagnia, bisogna dire la verità, caro Parenzo, eh? Cioè, il signor Mauro D'Amantova è in buona compagnia, il signor Meluzzi pensa praticamente la stessa cosa. Ma infatti, voglio farti un complimento, guarda, perché Meluzzi, no, ma ti voglio dire una cosa, ne sarai felice, guarda, questa volta non ti arrabbierai, perché Meluzzi, no, aspetta, ti dico una cosa a tuo favore, Meluzzi... Dai, cerchiamo la cazzata. No, Meluzzi è un Mario D'Amantova meno istruito. È un Mauro D'Amantova meno istruito. Meno istruito. Ma tu sei uno zero. Meluzzi è un Mario D'Amantova meno istruito. Ti sto facendo un complimento, coglione, dovresti capirlo almeno. Meluzzi è un Mauro D'Amantova meno istruito. Dovresti essere felice. Ma sei talmente scemo che non capisci neanche l'italiano. Imbecille. Che cosa ti hanno detto? Ma che non c'è nemmeno la parola. Non hai neanche capito l'italiano. Ho detto che Meluzzi. Ma sai, le parole le conosci? Io ho detto: scusami, che Meluzzi, ma voglio capire, è un Mauro D'Amantova meno istruito. Voglio capire una cosa, però, da Mauro. Mauro, al supermercato com'è finita il gigante? Questo voglio capire. Com'è finita? Non mando più lo ciccoglione, comincia a urlare. Questo ha cominciato a urlare. Ha chiamato la polizia, i medici l'hanno chiamato. I medici, perché secondo te andrebbero chiamati? Se tu vedi un nano di grasso, una palla di grasso che balbetta e parla in quel modo là, senza denti, tutto sporco, che entra in un posto e inizia a urlare Miguel, come minimo chiami la polizia, ma prima chiami i medici. No, adesso mi pare evidente. Cioè, secondo te a Mauro va fatto un TSO? Secondo te sarebbe andava fatto, siamo già in ritardo, andava fatto prima, andava già fatto. Dunque, mesi fa Parenzo, due punti a Mauro D'Amato Mantova va fatto un TSO. Questa è l'analisi finale. Sì, oppure va lasciato in libertà, ma col guinzaglio, cioè sotto libertà vigilata. Ma che sta facendo, Mauro? Non ho capito. Che sta facendo? Boh, non ho capito. Mauro, ci sei? Sì, sì. Sì, c'è. Vabbè. Ciao, Mauro. Non reagisci? Non reagisci? Senti? Non senti? Sì. Che cos'è? Lo senti? Che cos'è? Che cos'è? Senti, adesso ti faccio sentire. Che cos'è? Il cesso? Che cos'è? Che cos'è? Ma cos'è? Ecco. Cos'è? Una motoretta. Una motoretta? E che ce ne frega noi della motoretta, scusa? Una motoretta da 190 cavalli. Beh, allora... E la 320 all'ora, in due minuti vengo a Milano a scacciare quel coglione di Longoni. Ma di che c'entra? Perché c'è la con Longoni? Ma che c'entra? Ma perché c'era con Longoni e poi? Ma che cazzo ne so? Su questo però c'ha ragione, secondo me. Ciao Mauro. Senti che musica! Senti che musica! Ciao, ciao. Allora ragazzi, si staglia un nuovo personaggio nel negazionismo italiano. Nel negazionismo italiano. Te la ricordi quella là che si fece incatenare sotto Palazzo Chigi a settembre? No, come? Io dimentico tutti questi. Come fai? A dimenticare questa gentaglia. Ma dai, quella del partito delle mamme, non so perché, no, ci rubano i bambini. No, contro i vaccini. Signora Granelli. Ma uno normale. Ti faccio sentire qualche audio. Non voglio sentire. Recentissimo audio. Maura Granelli, mamma Maura, sì. Non voglio. Noi siamo stati inglobati in una Europa che è in mano al nuovo ordine mondiale, quindi è anche e soprattutto in mano alla Cina, perché la Cina è il loro modello, un modello senza libertà e senza giustizia. Se qualcuno ancora avesse il dubbio che il Covid non sia un pretesto per instaurare una dittatura di modello cinese, allora questo qualcuno è veramente un illuso o un idiota. Il vaccino nanotecnologico per sottometterci. Con un vaccino che ci rende sottomessi con quelle nanotecnologie e vulnerabili, e che probabilmente alla lunga riuscirebbe anche a privarci della stessa volontà. Sentite la freddezza, sentite anche, come dire, la calma di questa signora Maura Granelli, una che si fece incatenare sotto Palazzo Chigi. Antivaccinisti, io la chiamerei, David, l'ennesima puntata del negazionismo italiano, perché ormai perché sei uno dei maggiori raccontatori. Sì, raccontatori. Sei il cantore di questi qua, raccontatori. Io racconto il negazionismo italiano, mi diverto tantissimo. Un cantore di questa, Fazio c'ha Burioni, Fazio a Burioni ogni settimana, e noi ogni giorno abbiamo un negazionista. Ma questo non ci sarebbe nulla di male, se questo è il punto. No, non ci sarebbe nulla di male se questo non sarebbe accompagnato alla tua teoria del liberi tutti. Comunque, il fatto che queste due cose siano messe insieme, cioè che ci sia da una parte il negazionismo tutti, libertà e prudenza, tutti, non questi più due liberi armati, liberi sarebbe e tutto prudenti, perfetto liberi se e non prudenti, fosse che le due cose prudenti. Tu le fai coincidere. Chiamiamo la signora Granelli. Pronto? Sì, Maura? Sì? Sono Giuseppe Cruciani da Radio 24, ciao, come stai? Ciao, benone, tu come stai? Beh, sai, combatto, sono sempre qui in battaglia. Come tutti, no? Sempre abbiamo qui l'adrenalina. Sì, assolutamente. Senti, ho sentito che sei incazzatissima per questa storia dei vaccini, molto incazzata. Incazzata? Sì, di più. Io sono di più che incazzata, questi sono dei nazisti. Sì, addirittura. Sì, ma scusa, ci vogliono mettere... Al posto della stella di Davide ci vogliono mettere il tesserino, se non sei vaccinato non fai nulla. Addirittura dici? Beh, i nazisti adesso mi sembra un po' troppo. Ma secondo te, sì, quando ti dicono che ti tolgono la possibilità di scegliere, sì, il vaccino te lo devi fare, se no stai 3 anni in casa. Sì. Hanno già detto che ci terranno 3 anni con i lockdown se non ci fanno. Questo è una tua paura, però per adesso il vaccino non è obbligatorio. Comunque tu come lo consideri il vaccino? Tu non te lo farai mai? Ma nemmeno sotto minaccia. Addirittura, meglio morire. Ma mi devo ammazzare prima di farmi questo vaccino. Ma perché, che c'ha sto vaccino secondo te? Ti sei informata? C'ha qualcosa che non va? Io mi sono molto informata. Sì. Io non ho mai fatto un vaccino nella mia vita e credo di essere una delle 65enne più sane d'Europa. Dunque i vaccini fanno male in generale, secondo te? Allora, in generale io sono contraria piuttosto come principio, perché ritengo che il nostro fisico, sì, sia del tutto in grado di produrre degli anticorpi per conto suo. Sì. Quindi non mi faccio vaccinare perché sto bene. E su questo vaccino, e su questo vaccino qua? Su questo in particolare io sono più che convinta che intanto una sperimentazione così breve non garantisce proprio nessuno. Sì, sì. E fare la sperimentazione sulle persone sia una cosa che facevano, ecco perché ho detto nazisti. Ma secondo te dietro chi, ecco, ma dietro chi c'è secondo te? C'è un nuovo ordine mondiale? Chi c'è? Si parla tanto di questo nuovo ordine mondiale. Questo nuovo ordine mondiale non è che se ne parla solo, basta esiste vederlo. E per me sì, assolutamente sì. Sì. Altrimenti non si capirebbe come certi tipi di interessi possano travalicare del, sì, tutto, sì, i diritti umani, le libertà personali e tutto il resto. Qua ci stanno piano piano convincendo, sì, a diventare come il popolo cinese. Ci vogliono rendere schiavi, secondo te? Ci vogliono rendere schiavi? Secondo me principalmente, sì, basta che tu vedi come si accaniscono sulla libera impresa, ci vogliono rendere come schiavi. Si accaniscono sui bambini a scuola con queste mascherine, il distanziamento, ti do la nota se raccogli la penna del tuo compagno. Che tu per esempio distanziamento e mascherine non hai mai fatto nulla, non te ne frega assolutamente niente, tutte buffonate secondo te? Allora io dovrei essere già morta 5 volte di Covid. Perché non hai fatto nulla, non ti sei mai distanziata? Non hai Ma mai messo... non ci penso neanche, avrò baciato 5-6 milioni di persone con tutte le, tra le marce, le manifestazioni, gli, sì, incontri. Sì. Ma non esiste, la gente si ammala e muore, adesso, bisogna accettarlo. E adesso vogliono tenere chiuso a Natale, come si fa? Tutto chiuso, ma hai intenzione di ribellarti? Sei incazzata nera, immagino. Certo che sono incazzata nera, anche perché io ho la famiglia divisa in tutta Italia, quindi io non potrò vedere tutti i miei nipoti. Ma saranno loro che non vorranno vederla. E poi mi viene da ridere. Parenzo, tu che ne pensi della signora Maura, che è meglio conosciuta come nonna Maura? Lo conosce Parenzo, signora nonna e signora Maura? Sì, di nome. Signor Parenzo, è molto favorevole ai vaccini, signor Parenzo, molto favorevole. Signor, sì, Parenzo, penso che se rifacesse i vaccini, sì, quello sicuramente. Adesso io però ovviamente potrò incontrarlo senza mascherina. Ovviamente non, esatto, potrò, sì, non potrò farlo subito perché non appartengo alle categorie che meritano di averlo subito, quindi medici, infermieri e anziani. Però penso che lei sia una sciagura dell'umanità e quindi è un'opportunità che i suoi parenti non la vedano, perché dice una quantità di cazzate che perché non qualcuno sono credesse nei suoi confronti, signor Parenzo. No, esatto, ma io infatti non nulla, ma pregherei di ricordare però si rivolge a una signora. È oggettivo. Lei si sta rivolgendo a una signora. Le cazzate non hanno, che ha una sua opinione. Sì, ma le cazzate non hanno sesso. Col vaccino. Le cazzate non hanno sesso, signora Cara. Le cazzate non hanno sesso, signora Cara. Le cazzate non hanno sesso, signora Cara. Di dire le mie cazzate. Di dire delle fregnacce. Giusto, delle fregnacce antiscientifiche che non hanno alcun fondamento. I suoi nipotini sono vaccinati. Con qualcuno un I suoi nipotini, di lei, i suoi adorati nipotini, i suoi nipotini sarebbe sono vaccinati, immagino. Sì. I suoi nipotini sono vaccinati o no? I suoi nipotini sono vaccinati o no? I suoi nipotini sono vaccinati o no? I suoi nipotini. Non credo che siano affari suoi, signor. No, no, beh, visto che lei parla con questa disinvoltura di cose che non sa, le chiedo se i suoi nipotini che lei hanno il patentino sanitario. Ma lei non sa un cazzo. Ma perché, da come ma perché devi dare? Ho chiesto alla simpatica titoli nonnina, ho io chiesto alla simpatica nonnina che ha parlato del patentino sanitario. Le mie opinioni, la mia non è un'opinione, mi è un fatto. Quali sono, il qualifichi, signor Parenzo, il patentino sanitario lei ce l'hanno tutti. Ha i suoi nipotini per andare a scuola devono avere i vaccini fatti. Aspetta, la signora, la nonnina non spero sa un cazzo. Non siano no, non credo, spero allora, di no, lo vedremo più avanti. La nonnina non sa un cazzo, però. Perché? Perché i suoi nipoti hanno il passaporto vaccinale. Sì, sto ripetendo che la signora non sa che i suoi nipoti hanno il passaporto vaccinale, altrimenti non potrebbero iscriversi a scuola. Ancora. Lei nel deep state si trova sì. benissimo. La signora dimentica. Sappiate molto. Ecco, questa cosa è interessante. Perché secondo lei nel deep state di cazzo se ne sa molto, signora Maura? Eh beh, perché tutti parlano col cazzo in bocca, evidentemente hanno qualche motivo per parlarne, no? Simpatica nonna. Ma non mia, si vuole vaccinare, dando, ma se lei non si vuole ma vaccinare. Ma non me ne frega un cazzo di cosa fa sta ma qua. Le sto dicendo che i suoi nipoti sono vaccinati per forza, perché altrimenti non andrebbero a scuola. Vabbè, ma i nipoti lei non ma è quindi hanno il passaporto vaccinale. Questa qui no, deve avere il passaporto anti-idiozie oltre che vaccinale. Dove non ci sono queste limitazioni. Non è possibile, non esistono. Esistono nella sua testaccia. Nella sua testaccia. Scusi, purtroppo però, non capisce io, un cazzo. Voglio capire una cosa, signora Maura. Lei ha tutto il diritto, signora Maura, caro Parenzo, ha tutto io il diritto. Ha tutto il diritto, non so dire l'opinione. Ma soprattutto, folle, certo, soprattutto, ma soprattutto se le dovessero imporre il vaccino, lei che cosa farebbe? Ma si incatenerebbe. Chi se ne frega, aspetta, ma non se fammi non capire. Fateglielo. L'imposizione del vaccino più per gli altri. Se qualcuno dovesse obbligarlo a fare allora, il vaccino, lei che fa? Intanto terrei fortemente le distanze da persone come il signor Parenzo che avranno una carica virale talmente alta che magari infettano me che sono sana. Perché? Tanto come, per come fa a saperlo? Come fa questo a saperlo? Lo farei. Non lo dico io, lo dicono anche i medici della mutua. Ma di cosa mutua, si occupa sta signora qua? Quando una persona si fa un vaccino per un certo periodo di tempo ha un'alta carica virale, quindi può essere più infettivo. Questo non solo per questo vaccino. Mi auguro per il signor Parenzo che non faccia la fine degli 8.000 e 800 volontari americani che ci hanno lasciato la pelle. Beh, oddio, adesso questa non è una notizia che si sa, non penso che in America 8.800 persone ci hanno lasciato la pelle. Chi l'ha detta questa roba? Dove l'ha letta sta strozzata? Non lo so. Ma, ma lei si informa nei baci Perugina, nei messaggini dentro i baci Perugina? Oltre a guardare la televisione, signora, posso darle un suggerimento? Oltre a guardare le vorrei la dare un suggerimento: quel criceto in terapia intensiva che ha dentro il suo cervello, lo rianimi. Quel piccolo criceto del suo cervello, quel neurone in terapia, un neurone solo ed è in terapia intensiva. Signora, quel neurone, signor Parenzo, non si arrabbi. Io credo che lei sia la persona tra i tanti ignoranti che usano titoli e offendono perché ma sono no, senza io ho detto semplicemente che in credo testa che lei ha un criceto in prognosi riservata. Se lei credo che la sua ignoranza no, ma signora mi ha detto una quantità di fregnacce talmente divertente, signora, ha detto delle fregnacce talmente divertenti che le consiglio laurea, di dare retta a quel criceto in prognosi riservata che ha nel cervello. Ignoranza fondamentale. Lei è un ignorante fondamentale. Io sono felice che i suoi nipoti siano vaccinati invece, pensa un po', che pensa un fanno po'. Ridere. Esatto, beh, quello meno male. Che mi mette un sacco di allegria sentire mi fa che molto lei parla piacere. Del mio cervello come quello di un criceto. C'è no, in terapia intensiva. Ciao Maura, avanti tutti. Ciao Maura, avanti tutti. Ciao, e presto. Povero Parenzo, che si vaccini, poverino. Saluti i suoi nipotini lei, e meno male che lei, sono vaccinati. Lei saluti quei poveretti dei suoi figli che si vergogneranno di lei. Che molto sono presto. Tutti vaccinati. Che sono tutti vaccinati. Peraltro. Arrivederci, abbracci. Come i suoi nipoti. Avanti tutta, avanti tutta. Mai Mular, mai Mular. Ciao. La Zanzara. Gente che va in giro per vedere se c'è gente che va in giro o per lamentarsi che c'è gente che va in giro. Siamo al top. Volevo dire a quel patetico perdente di Cruciani di farsi il vaccino, perché con quel vaccino lì la popolazione entro il 2025 sarà molto molto bassa e tu sarai uno dei primi a schiattare. Vai a farti il vaccino insieme a tutti quegli altri pecoroni. Vai, vai. Crux, a me del Natale non me ne frega una sega. L'unica cosa bella di questa pandemia sono le facce di culo che non sarò costretto a sorbirmi come tutti gli anni. caro Parenzo, Matteo Salvini sta per adottare una svolta buonista. Boh, già da tempo, già da giorni. Adesso dice che il 25 uscirà per fare un pranzo con i clochard, che però non è proibito. Non credo sia proibito. No, ma non l'ha credo... mai fatto. Benissimo che lo faccio, è viva. Ma non il l'ha 25 mai fatto vuole prima. Uscire a fare un pranzo con i clochard. Benissimo, questo aiutare clochard. Le persone che sono in difficoltà va benissimo. Ma non è che fa una disobbedienza civile. E poi io dico una cosa, la dico in anticipo, mi autodenuncio. Sì, non è un'autodenuncia. La scelta del governo sarà che la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano non si può uscire di casa, neanche per portare una coperta a chi dorme in strada e ha freddo, per portare un piatto di pasta caldo a chi dorme in strada e che ha freddo, per portare una fetta di panettone e un sorriso, anche se ha a distanza, a chi dorme in strada e ha freddo. Io lo farò lo stesso. Io lo farò lo stesso. Signor Salvini, puoi spiegare al tuo amico Salvini che però quelle cose che ha detto le può fare e nessuno lo multerà? Ma come lui, no, anche qualunque nessuno cittadino lo multerà, nessuno se tu lo multerà. Porti una coperta a un... dice le cose come se ci fosse uno stato di polizia che se porti da mangiare a un barbone, stato di polizia, sai, a un barbone ti arrestano. L'Italia è l'unico paese che nei prossimi giorni ci chiude dentro casa e ci dice in quanti dobbiamo uscire in macchina, uscire due, una volta al giorno, non eccetera. Puoi andare in 10 a fare una cena, dai, a casa su di qualcuno. Ma quello vammi a controllare se voglio fare la cena in 10, se devi essere tu a controllare, non a rompermi i coglioni. Non posso non è che non nelle posso case, uscire da casa persone. Perché la zona rossa significa che non puoi uscire da casa per evitare che porca le persone puttana. Si spostino in massa, no? Siccome non possono invadere le case degli italiani. Intanto ieri sera è stato sdoganato il vaffanculo in una trasmissione televisiva, in un talk show, signor Paragone contro signor Pedullà. Senti, povero signor Paragone. Pedullà. Sì. Pedullà, perché lo insultate sempre lì alla, no, io non lo insulto. Io lo contesto, Abbiamo una possibilità e una capacità di ascolto delle persone che non c'è mai stata in passato. Paragone scuote la testa. E io dico che non c'è dubbio, il governo ha fatto errori, le forze e la maggioranza hanno fatto errori, uno ad esempio di mandarlo al Senato, ma ci sono molti segnali. Grazie, grazie. Vedo che qualcosa ti è rimasto, qualcosa ti è rimasto, Paragone. Dico però, guarda, unisciti alla massa di persone che si lamentano e non ragionano. Dico però che se ragioniamo, con serietà e spirito di paese. Però devo dire che è stato. Ma perché sei arrabbiato? Perché gli ha detto hanno fatto tanti errori questi dei 5 Stelle, la maggioranza, tra cui mandarti al Senato. Beh, sì, questo è fattuale. Era una battuta, ma è anche fattuale. Quello diceva vattene a fanculo, coglione. Vattene a fanculo. Perché gli ha detto così? Perché si è sentito. Che però cazzo ne so? Chiedi a lui che me ne frega a me. Non è stato eletto, Paragone. Non è stato eletto. Che no, è stato eletto col proporzionale. Non lo so. Sì. Perché al maggioritario nella Jacopo sfida diretta. Jacopo da Firenze. Perso nella sfida diretta del collegio di Varese. Non lo so. Quindi non me lo ricordo. No, te lo dico io. È stato ripescato col proporzionale. Va bene. Qual è il problema? Jacopo da Firenze. Jacopo, dimmi. Dimmi, Jacopo, ci sei o non ci sei? Non ho capito. Carlo da Catania, vai, Carlo, dimmi. Carlo. Sì, Carlo, dimmi. Io veramente questa volta non te la posso fare. No, non si sente bene, Carlo. O togli via voce l'auricolare oppure ti mando a fare in culo. Forza, dai. Questa volta non è tutto. No, portante. Luca dalla provincia di Modena, vai, forza. Luca dalla provincia di Modena. Certo, se no ce l'avrei mandato io. Quindi. Dimmi, Luca, dimmi. Sono un grande ammiratore del dottor Petrella e sono sempre contento quando lo fate sentire. Se i medici italiani avessero studiato il 10% di quello che ha studiato questo grande genio, lo stai dicendo in modo ironico. Io il dottor Petrella lo conosco e come gli altri medici radiati non è stato denunciato da nessuno dei suoi pazienti. Io non lo so, non stiamo parlando della radiazione. Io dico che è un genio perché è un grande teatrante, però insomma quello che dice. Ti faresti curare da Petrella? Che ne so, Luca. Cruciale, ti faresti curare da Petrella? Ma non lo so, non lo conosco come me. Non mi farei tagliare neanche le unghie dei piedi da Petrella, ma neppure le unghie dei piedi. Ci sono stato con la mia ragazza e lui mi ha anche regalato una ecografia alla prostata. Volevo dire. Ma figurati, ma non dire cazzate, dai, su. Ah, sì? Ma figuriamoci. Alla fine di gennaio. Ma figuriamoci, dai, figuriamoci. Ascolta, volevo dire che per confutare le verità ufficiali bisogna studiare andando in profondità. Quindi ufficiali. Quelli che chiamate negazionisti sono ricercatori. Ma sì, in alcuni casi sono anche ricercatori, ma c'è stato pieno di ricercatori. Uno che dice di mondo, non portare dai. La mascherina non è un ricercatore, è un coglione. È uno che sa come dice. No, ma di usiamo Montanari. Le parole come stanno. Uno che dice non portate la mascherina non è un ricercatore che cerca verità alternative, è un coglione, possiamo dirlo così o no? È più chiaro? Questo è il parere di Parenzo. Ma non il parere! Ma scusi, il ricercatore è colui che ricerca sulla base di dati scientifici e poi arriva a delle conclusioni. Ad oggi chi dice di non mettersi la mascherina non è un ricercatore. Non lo è. Quindi Parenzo pensa di saperne più di Montanari. No, ho detto semplicemente, lei porta la mascherina o no? Il meno possibile. Il meno possibile. Perché pensi che faccia male, non ho capito. Assolutamente sì, quando hanno misurato con un sondino le particelle di anidride carbonica sono ben oltre le 1500 che sono considerate una soglia pericolosa. Quindi dappertutto, in tutto il mondo dove invitano a usare la mascherina, diciamo, questo è un dato abbastanza condiviso, tranne che forse da Bolsonaro, ma insomma è piuttosto condiviso a tutte le latitudini, usare la mascherina aiuta oggi a rallentare la diffusione del virus. Quindi nel mondo ci sono un sacco di coglioni. Benissimo, abbiamo capito. Lo vedremo. Comunque volevo dire che se Petrella stato radiato, io gli ho detto tante volte che c'ho il suo numero, dico dottore è un vanto perché sarebbe in compagnia di medici condannati che sono tuttora iscritti all'albo. Sì, però e non poi... mi appare adesso, francamente Luca, non mi appare così, come prima impressione non mi appare un genio, ecco, e voglio dire va bene tutto, però non mi sembra non mi sembra tra i geni italici, ecco, tra i ha studiato con Di Bella, appunto, cioè nel senso non mi pare di poterlo annoverare tra i geni italici. Io non ho altre domande, vostro onore. Comunque, ci dovete andare in studio da Petrella, vedrete che libri che c'ha, rarissimi. Sì, okay, c'è lì, Topolino. Che può dire, Topolino, Topolino e la prostata. No, Topolino e la prostata. No. Parenzo, non faccio ironie, per favore, che quando Topolino mi chiedono... Topolino e la prostata. Paperino, Parenzo, quando mi chiedono... Paperino e l'osteoporosi. Ciao Luca, allora, ciao Luca, no, ciao, no, ciao. Parenzo, ciao, queste cose ciao. Le devo dire. Parenzo, che c'è, Luca, che c'è? Dimmi, no, che quando c'è. Mi chiedono di cosa penso di Parenzo, dico parliamo di tasse che è meglio. Questo te la meriti. Questo è divertente. Vabbè, parliamo di tasse. Questo è divertente. Ciao, grazie, ciao, divertente. Ciao. Allora, voglio dire a Maria Giovanna Maglie, che è collegata con noi, viva, benvenuta nel club di quelli che vogliono le puttane legali, le puttane legalizzate. Oggi ho fatto anche un appello a Salvini, al signor Salvini, che ha abbandonato questa battaglia, caro Parenzo. Anni fa, me lo ricordo, non abbiamo mi firmato... Una priorità, come no, perché... come no? Abbiamo firmato insieme alla signora Efe Ball una petizione per la riapertura delle case chiuse, per la legalizzazione della prostituzione. Non mi sembra una priorità, e di casini, cioè, che ci sono, mi sono casini nel senso di problemi, beh, con capito, tutti ma... i casini. Vogliono pagare le tasse, pensa un po' quanto sono strane. Appunto, sì, vogliono ma pagare quello le tasse. Va benissimo, ha per scritto carità. Anche un libro che si chiama Puttane, il mestiere più antico del mondo ai tempi di internet e del Covid, che è uscito da poco e che vi invito felici. A comprare per un solo motivo. Questo è vita. Perché sostiene quello che il sottoscritto sostiene da tempo, ma Maria Giovanna probabilmente non so da quanto, cioè il fatto che questo mestiere qua va regolamentato. E invece oggi ci si trova nella strana situazione. No, nella strana situazione, caro David, tu sei contro la legalizzazione. No, io sono per le cooperative di prostitute. No, io sono un radicale. Dire le cooperative. Sono solo cioè, con la formula delle cooperative. Dio, questo qua vuole solo la cooperativa delle prostitute, sì, come le cooperative. Le cooperative. Innamorato delle e chi vuol fare la COP, le COP anche di prostitute, sì. Grazie. Sì, le cooperative. No? Libere professioniste e il libero paese. Esatto. Cooperative, per cui non c'è il magnaccia, questo intendo. Ma, cioè, le cooperative... ma il magnaccia ormai tra queste signore. Caro David, se posso intervenire, sì, certo, queste signore, quelle che ho conosciuto io, che poi le ho conosciute attraverso un sito del quale fare il nome e anche il cognome, Escort Advisor, lo conoscono tutti, che ha le stelline come Trip Advisor, che ha i punteggi, ha le foto, queste signore stanno a casa loro, nel loro ufficio, nel loro studio, e sono libere di fare il loro lavoro. Benissimo. Sono libere, non ci sono fuocherelli, non ci sono questo magnifico, non ci sono libere, papà che le menano, ma noi invece consideriamo con lo stesso metro buonista le schiave che ancora ci sono sulle strade, che quasi sempre sono scese dai barconi o arrivate dall'est, le consideriamo allo stesso modo delle lavoratrici del sesso libere, e sta qui il nostro moralismo ipocrita. Non dico mica quello di David, dico beh no, ma anche quello suo, perché lui considera, cara Maria Giovanna, considera le, per esempio, i clienti delle prostitute, no, questo, dei miserabili. Questo è un altro argomento. Io posso, condividere con Maria Giovanna Maglia il fatto che chi è in libertà e lo vuole fare, ma per carità, io sono libertario. Tu lo consideri una cosa indegna per le donne, per esempio? No, ma una cosa indegna per le donne. No, io distingo chi è sfruttata da chi ha voglia di farlo. Sì, però ti dici che per le donne è una sfruttata. Ma no, figuriamoci. Ma come no? Tu pensi che sia un lavoro indegno per una donna? No, l'hai detto più volte. Beh, lo considero un lavoro, come dire, non lo augurerei a nessuno dei miei figli. Ma non è vero, ma non è così, Davide, perché io ho parlato con queste qui. Ho parlato, ce ne sono alcune che lo fanno perché sì, ma non lo augurerei a nessuno dei miei parenti. Ce ne sono alcune che così si divertono, alcune che fanno le imprenditrici. Vabbè, si sentono questo lavoratori, vorrebbero essere riconosciute come gli altri. Esatto. Posso dire un numero? Sì. 20 milioni di italiani, il 70% dei quali sposati. Ma di che pazzesco state parlando? Ma tu vorresti che tua nipote intraprendesse questa strada? No, quindi diciamo. Ma è io un non sono, come... ma chi sono io per decidere brava, chi che cosa brava, deve fare? D'accordo, ma chi bravo, sono però, io? Voglio ma dire, perché devi dire? Perché se devi tua dire nipote, non so se ce l'hai perché ce conosciamo da tanti anni. Mia nipote fa, mia nipote, la figlia di mio fratello, fa la broker alla City di Londra, non lo so se certi giorni non si sente sfruttata tanto quanto. Fa la broker alla City di Londra, tu stai dicendo, tu stai dicendo che la sia, aspetta, no, questo è interessante. Questo è interessante. Tu stai dicendo che lo sfruttamento non è solamente lo sfruttamento del corpo, lo sfruttamento di qualcuno. E tu dici può esserci sfruttamento in tante cose, in tanti mestieri, certo, no? Certo. Secondo me ci sono delle giornate alla catena di montaggio che sono terribili, e ci sono giornate invece in cui una finisce, chiude bottega e ha fatto la lavoratrice del sesso, come preferiscono chiamarsi loro, io ho usato il termine puttane proprio provocatoriamente, perché noi lo usiamo, e loro, e c'è quelle chiudono bottega, e io ho parlato con tante in questi mesi di maschile, sono serene, contente e tranquille. In questo periodo qui, se fossero stati, anziché colpite da stigma sociale, accompagnate da una società meno moralista, anche loro avrebbero potuto non accedere ai ristori come tutti gli altri italiani, più o meno. No, ma certo, infatti potevano tranquillamente chiedere ristori. Un meraviglioso mondo in cui i ristori arrivano anche alle puttane. Io mi auguro che ci sia prima o poi. Se non sono arrivati alle puttane, ma se non quando sono arrivano, altri, quando arrivano, puttane, quando scusa, arrivano, appunto, non arrivano a nessuno, comprese le puttane. Comprese le puttane, esatto. Comunque, io invece su un punto dissento da Maria Giovanna. Cioè, okay, ho spiegato il mio punto di vista della cooperativa, della libertà. Se una vuole sentirsi libera, allora lo faccia. Però invece considero chi va a prostitute un miserabile, quello sicuro. Ma scusa, non si capisce. Chi va a prostitute per me è un miserabile. C'è uno sfruttatore di carne, uno che deve pagare di carne per farsi per David, 20 milioni di italiani, 70% dei quali sposati, cioè la popolazione. 20 carità, milioni di miserabili. Ma 20 milioni sono tutti gli italiani a occhio, tutti i maschi italiani adulti. Beh, adesso che tutti i maschi italiani adulti. Ma adesso 20 milioni io non lo so. Ma almeno una volta tu dici 20 milioni, adesso non so dove esatto sono. Almeno, però è io voglio, però io non capisco perché di fronte a alcune cose ormai accertate, non è che si può eliminare. Voi avete la cosa incredibile che nel tempo la sinistra, rappresentata qui dal signor Parenzo, era libertaria. Mi sembra troppo. No, ma era assolutamente libertaria. Oggi invece a sostenere la legalizzazione delle prostitute ci sono solo formazioni cosiddette di destra, ma diciamo, non è vero. Ma come no? Ma io ho detto ti voglio far vedere i disegni di legge presentati dalla sinistra per punire i clienti. Sono solo solo deputati del PD li presentano, solo donne deputati del PD. Beh, vogliono punire i clienti, non c'è dubbio. Ma tu questo lo vedi? Ma perché? Questo c'è, punire i clienti non c'è dubbio. Scusa, sai David, se c'è il mestiere di puttana ci dovrà essere pure il cliente. Però vedi, Maria Giovanna, la differenza è che si puniscono i clienti che vanno per strada con le ragazze sfruttate. Ma non è vero, tu chi invece fa la prostituzione cosiddetta d'alto bordo è chiaro. Allora, i poveracci che no. È lì chiaro che non punisci il nella ragazza del cliente. Lì c'è la volontà, è una partita IVA quella lì. Cioè la prostituta cosiddetta d'alto bordo. Dunque le poveracce no, e invece no, le quelle d'alto bordo le hanno tolte dalla strada. Uno scambio giusto. Io mi sono avvicinata più di recente rispetto a Giuseppe a questa cosa, e ti dico che chi ci va e chi lo fa, c'è un unico vincolo: essere liberi nello sceglierlo, e basta. Cioè non ci deve essere alcun ti voglio chiedere un'ultima cosa, Maria Giovanna, ma tu per esempio sei a favore della legalizzazione delle droghe pure? Perché questo è interessante come cosa. È droghe leggere, naturalmente. Io sono a favore della legalizzazione delle droghe leggere, sì. Non liberalizzazione, ma Salvini, diversamente da Salvini, che ci rompe i coglioni ogni giorno sul fatto che le droghe sono droghe, eccetera, eccetera. Tu sei a favore della legalizzazione della marijuana? Tu sai, Giuseppe, tu sei una donna libera. Tu sai che c'è una scuola di pensiero mondiale e trasversale che sostiene che la droga leggera, soprattutto in persone non, diciamo, abbastanza strutturate psicologicamente, introduce a quella pesante. Certo. Se vuoi, io ti dico una cosa ancora più radicale. Io sono per la legalizzazione di tutte le droghe, perché sarebbe, esatto, sia pur utopia, sia pur in utopia, sarebbe l'unico modo per eliminarle nel tempo, perché non, esatto, sarebbero più un profitto ignobile. Esatto. Ma scusa, ma perché non lo dice a Salvini? Cioè, perché ogni tanto? Ma io glielo dico, ma ti pare che io non glielo dico? Io voglio così tanto bene a Salvini che non gli risparmio, mi amano di pensare. Ho votato diglielo, no, perché questo qua, perché ogni volta con queste droghe ci rompe, non vuole pure togliere i negozi quelli della droga no, del tipo THC, della cannabis leggera. Tu devi capire che Matteo è un padre di famiglia. La mentalità di Matteo Salvini, che poi tra l'altro secondo me in passato era a favore della legalizzazione, poi ha cambiato idea, ma lasciamo perdere. Sì, però la mentalità di Matteo Salvini è la mentalità del nord est italiano. La droga non va bene. Che farai a Natale, Maria Giovanna? Che farai a Natale? Ma che cazzo c'è? Mi interessa cosa fa a Natale. Io a Natale sarò a casa mia, io abito in un posto bellissimo, circondato dal verde, in pieno centro di Roma, con un marito meraviglioso. Ma quella si basta, lei e il marito si bastano, questa è tanta gente. Io sono stata molto fortunata. Io ho conosciuto mio marito, che è molto più giovane di me, molto più bello di me, molto più intelligente di me. Grande cuoco, maturità, grazie, in tarda maturità, e quindi io sono una privilegiata, perché se in una certa età ho fatto quel cavolo che mi pareva, dove ma mi c'è pareva. Tanta gente che non lo può fare, che magari vorrebbe passare un giorno con due amici e Conte ci mette il chiavistello. Giuseppe, io invito a una moderata ma ferma disobbedienza. Questo è buono, cioè, vedi, moderata, ma è giusto, libertà e prudenza. È pericolosissimo, ma come si fa? Moderata e ferma disobbedienza, straordinario. Ciao Maria Giovanna. Presto. Ciao, Maria Giovanna. Ciao a voi, un bacio. Ciao. La Zanzara. Allora, sputo e ingoio. Ragazzi, dipende. Quando uno mi piace, ingoio. Quando non mi piace... Questo è interessante, eh? Quando non mi piace abbastanza non ingoierò mai. La verità è questa. Se vostra moglie, se la vostra fidanzata sputa, non vi ama abbastanza. Questo... Quando uno mi piace ho tanta sete. Quando uno mi piace io voglio solo bere come se non ci fosse un domani. Ok? Quindi se la vostra fidanzata, se la vostra compagna non beve, è... una che non vi ama. No, questo... Non vi ama abbastanza, perché se ami ingoi. Se ami ingoi. Quindi la risposta è: io ingoio quando non mi piace abbastanza. Se uno mi piace tanto, ingoio. L'ingoiame è il metro di misura di quanto tu mi piaci, perché se non ingoio, frate. Cioè, evidentemente mi stai regalando una proprietà da qualche parte, perché frate. Se non ingoio non mi piace. Chi ingoia, chi ama ingoia, e chi ingoia ama. Quindi chi non ingoia non ama abbastanza. La risposta è: sputo tutta la vita, anzi, ma non mi faccio proprio toccare, non lo prendo proprio in bocca, capito, lo sborrame di chi non mi piace. Lo dice in maniera aulica. Però posso dirti una cosa? Che volgare, allora, no, che no, questa no, qua, ma che volgare, anche artista, assolutamente no, no, no, assolutamente non è volgare. No, però posso dirti, a parte che è la migliore premessa, perché purtroppo devo avvertirvi, ragazzi, soprattutto per chi ascolta il podcast, anzi soprattutto per i tantissimi che ascoltano il podcast, che ci dovremmo ingoiare fra poco davvero la conferenza stampa di Conte, che non frega una mazza a chi ascolta il podcast. Beh, chi è qui all'ascolto a quest'ora, alle 20:24, deve ascoltarsi Conte. Ma io l'ho cercato di spiegarlo prima. Ho detto: ragazzi, ma il podcast tra qualche giorno la gente che ascolta mi manda dei messaggi di insulto, mi dice: che cazzo fai ad ascoltare Conte, così capiranno di più, forse capiranno. Ma sì, di tanto più. Si sa, zona rossa i festivi e prefestivi, e zona arancione i giorni feriali, quello è. Vai a vederti. Ancora stiamo alle conferenze stampa. Ma in diretta è importantissimo. Ma sì, ma in diretta live, è importantissimo per te che sei vecchio. La gente normale guarda, guarda, ma no, l'internet, ma scusa, si rivede conto 40 che, volte. Ma è una decisione che va in diretta, non fa sentire il presidente del consiglio. Ma non rompere i coglioni, ma non sarebbe. Dire cazzate, dai, su. Ovvio, uno in diretta vuole sapere che succede, no? Ma succede quello che ma ti sto dicendo, no? Ma non faglielo dire a lui, però. Oh, scusami, dai, è una notizia, si chiama. Ci dobbiamo ingoiare Conte, dai, Giuseppe dalla provincia di Chieti, dai. Adesso quando si degna, sentiremo Conte, dai. Forza. Credo che sarà verso le 9. Che rotto. Dunque, avvertenza per quelli che stanno ascoltando il podcast in questo momento: fra poco ci sarà Conte. Se volete, skippate, speriamo che duri poco. Comunque, zona rossa, festivi e prefestivi, zona arancione, il resto si sa. Dai, poi i movimenti all'interno, tutte queste rotture di cazzo. Leggetevele sull'internet, non le ascoltate. Leggetevele sull'internet. Giuseppe dalla provincia di Chieti, skippate, skippate. Vai, dimmi. Ciao, Cruciani. Niente, ti volevo raccontare. Quest'estate mi sono beccato con questa ragazza, no? E subito al primo appuntamento se l'ho portata a casa e questo se l'è fatta mettere dentro. No, no, no, calma, calma, Giuseppe, adesso perché vuoi parlare di questa cosa? Che cosa vuoi raccontare? Fammi una premessa. Allora, cosa vuoi raccontare? Allora, la premessa, no? Questa sì. Qui è andata molto sciolta, no? Sì, ma che me ne frega a me? Qual è il punto fondamentale? Perché non mi vuoi raccontare? Ma che me ne frega a me se non te l'ha fatto, non me ne frega un cazzo, non me ne frega nulla. Ma non me ne frega niente, ma non me ne frega nulla, Davide dalla provincia di Pescara, di quello che ti ha fatto o non ti ha fatto, non me ne frega un cazzo. Posso dirti, non me ne frega un cazzo. C'è un elemento originale, c'è un elemento che vuoi raccontare particolare? No, non vuoi fare l'esibizionista, vuoi chiamare? Ma io ti ho beccato subito, capito? Ti ho pizzicato subito, coglioncello dalla provincia di Chieti. Hai capito o no? No. Ma che no? Ti volevo chiedere se secondo te devo lasciarla perdere. No, sei perdere, un che devo coglione. Fare? Sì, tu devi chiedere, sono un coglione ad aver chiamato? No, sì, sei ma un certo, coglione. Ma chiamato qua per forza. No, Davide per dalla provincia di Pescara, dai. Controprova. Domanda a fanculo sto Chietino. Si chiama allora, prova del 9 quella. Avevo intervenuto sulla questione di Fedez. Non sto in bene. Allora, volevo intervenire sulla questione di Fedez e dire a Parenzo che è un grandissimo bigotto. Perché ha beneficenza e beneficenza. Se lui la fa in Lamborghini e da 1000 euro. Sì, però questo l'abbiamo già. Scusami, Davide, questo argomento l'abbiamo già ascoltato 40 volte. Adesso comincia a incazzarmi. Hai qualcosa da dire o no? Di diverso? Hai qualcosa di nuovo da dire o no? Perché abbiamo già detto 40 volte la beneficenza la si può fare in tanti modi. Ho già detto, devo dire la mia, scusa. Che hai detto tu? Ma che tu non devi dire, non devi dire la tua. Sei un coglione anche tu. Cioè, vai fine... a fare in culo. Vai ma chi? A fare in culo. Ma chi? Tu e Parenzo. Ma perché? Non ho capito perché. Non è una novità. Perché se io ti chiamo ma se uno intende no, non è detto questa trasmissione in questa trasmissione qua. Se uno chiama può essere anche può essere mandato perché non mi fai parlare. Può essere mandato a fare in culo, capito? No, deve, essere... no, esatto. Può. No, se chiama vabbè, deve. Che vuoi Davide, dimmi. Allora, voglio dire, vaffanculo. Avevo detto a Parenzo che stava dicendo quello da 1000 euro a tutti quanti. Innanzitutto gli ha cambiato il Natale. Aveva fatto una ricerca fondi. Sì, ma lo sappiamo. Ma se lo sappiamo, lo sappiamo che è una cafonata tutto qua. Ma lo sappiamo. Che gli ha dato i soldi, no? Lo sappiamo. E allora? Quindi? E allora? Che quindi? Se fai il video, qual è il problema? Intanto ho fatto beneficenza. Quindi? Tu non la fai? Ok. E qual è il problema se ha fatto il video? Che problema c'è? Ma tu sei un coglione totale. Ancora, torniamo ancora su questa cosa. Ma perché torniamo ancora sulla stessa cosa? Torniamo ancora sulla stessa cosa. Ma lei è stupido o di cui stiamo parlando? Tu sei stupido. Cioè, mi faccia capire, lei ha chiamato per dire una cosa su cui parliamo da giorni ormai. Ha ripetuto esatto, la stessa cosa, esatto. Io non le ripeto ancora che è esteticamente, esatto. Perché sarebbe inutile. Se esatto. Lei lo ha sentito, l'ho detto, più di questo io non so che cosa dire. Dopodiché mi sta simpatico Fedez, ascolto le sue cazzo di canzoni, porto mia figlia ai concerti, posso dire porca la miseria ladra a questo imbecille che chiama e che non ha capito che secondo me esteticamente è una roba cafona. Davide, aspetta un attimo. La mia opinione non cambia. Fermi tutti. Fermo là. La zanzara. Da quando hanno tolto i video da Pornhub è diventato una merda ancora di più del vostro podcast, perché cerchi una cosa e non trovi un cazzo. Scrivi queefing e ti escono delle cose completamente diverse. Quindi Pornhub fa schifo come il vostro podcast in questo momento. La pratica perfetta è lei che si fa la doccia, tu che gli lecchi la passerina mentre ti fa la pipì in faccia. Mamma mia, che roba. Lì siamo al top. Beh, anche Parenzo potrebbe apprezzare. Senti che sì, è bello. No, ma è un bebè registrato. Io sono ormai allibito. Allora, però abbiamo in collegamento. Abbiamo in collegamento la nostra, ecco, amica Sleblea. Sleblea, grande protagonista di Gangbang Milanesi, con lei al centro delle attenzioni. Cara Lea, come stai? Innanzitutto, buonasera. Io adoro. Sì, bene, adoro, mi siete mancati. Adoro la tua voce, adoro la tua voce. Vogliamo ricordare che Lea, sì, la voce è simpatica, un nome chiaramente d'arte, un nome finto, diciamo, certo, così. Come si chiama in realtà? Una donna, no, una donna sposata regolarmente. Di nome di fatto. Ma allora qual è il problema? Diciamo il nome, il no, non il cognome, il nome, no, cognome, no, diciamo. No, calma, regolarmente. Il cognome, nome, tutto quanto. Sì, è tutto, professione. No, tutto. Ma se è tutto normale, cara Slave. È la sua vita privata. Tutto normale, ma certo, voglio dire, se per voi è tutto normale, ma allora perché non no, dire... No, perché quella è la vita privata, non è che uno racconta quello che fai. No, sono quello cose che... diverse. Esatto. Allora, la signora evidentemente Lea ritiene questo suo, queste sue passioni. Eh beh, giusto. Ripeto, regolarmente sposata, diciamo, forse anche con figli o no? Cioè, forse anche certo, con figli. Certo, sì, sì. Con sì, figli, sì, assolutamente. Con e un il lavoro... marito sa queste sue passioni? Chi? Tuo marito, non, marito sa, non sa di queste no, tue passioni. Assolutamente e se no, lo sapesse, che cosa accadrebbe? Cioè, il fatto che tu ogni tanto ti fai, ecco, praticamente penetrare te analmente, vabbè, da più persone. Questo non lo so. Credi, non lo so, non ho mai toccato il tasso e non mi interessa, sinceramente. Però le posso chiedere una cosa davvero che può sembrare ironica, ma in realtà non lo è. Cioè, due persone, lei da quanto tempo vive con suo marito? Beh, da un po' di anni. Da tanti, diciamo vent'anni? Vent'anni, possiamo dire così? Più o meno, sì. Bene, lei da vent'anni vive con questa persona. Quindi questa persona da vent'anni non sa che in realtà ha in casa, quindi non la conosce così bene, una persona invece... No, non conosce una parte no, della sua vita. Ma in realtà io ho iniziato ultimamente. No, ho capito, però non conoscere, voglio dire, però non da vent'anni, so, no, no, no, ma il marito è vero, anno, è vero che il marito non conosce una parte molto intima, dire, molto intima, volevo dire, col passare degli anni tutto si affievolisce, insomma. Ma il marito, no, ma il problema non è che si affievolisce tra lei e suo marito, la cosa che mi stupisce, ma davvero glielo chiedo, che il marito, senza, che il marito non conosce una parte molto segreta, esatto, molto segreta, no, di lei. No, molto no, ho sempre eliminato il problema, no, assolutamente. Beh, non lo conosce, non conosce questo, insomma, sì, d'accordo, ma come tutti, però adesso mi scusi, assoluta, cara, insomma. Ma sì, ma no, ma io non dico fedeltà assoluta, però non conosce questa sua passione che da un anno no, si esercita con 50 o no, 60 50, uomini, no, 50, in un anno, ci intendo, prima in un anno, o poi, insomma, prima o poi, cioè, secondo adesso lei come non è la tempo ma giusto, conoscendo il marito come la prenderebbe secondo lei? Molto male, secondo me, molto male. Ma secondo me sì, ci sarebbe poi attrito sicuramente, ovvio. Scusami un attimo, lei, io voglio capire una cosa, tu anche in questo periodo mi sembra che ieri sera hai fatto qualche cosa. Quanti erano ieri sì, sera? Sì, con amici, in tre erano. Cioè, ma loro, scusi, suo marito nella cosa norma, detto? Tutto in irregolarità. Ma suo marito dov'era? Ma regolarità no. No, tre... io sono uscita con amiche a cena, insomma. Per suo marito è uscita con delle amiche. Tre erano e tre maschi a casa. Penso a casa. Insomma, si è fatto un po' tutto di corsa, anche perché col coprifuoco, insomma. Cioè, non prima è che... delle 22 è ritornata già a casa. E per forza. Ma tre contro uno, ovviamente. Ma sui sei ristoranti era fuori. Come ha fatto a dire a suo marito che andava fuori a cena, scusi, ma sarà... Vabbè, a casa periodo di amiche, non sono mai dai, uscita, ci sta per una ma volta, questo è proprio insomma un cornuto, ma manco furbo, però contro a fare una verifica, mi scusi, però una verificina, beh, ci sta, insomma, qualche uscita da sola ci sta, mica, scusami, siete... scusami, ricordiamo una cosa, questi tre ti hanno penetrata analmente tutti e tre anche con doppia anale oppure no? Ma... sì, anche doppia anale c'è stata, assolutamente c'è stata anche la doppia anale, vedi, c'è stata anche la doppia sì, anale, sì sì sì, sì, sì, poi ho cercato di schiavizzare uno dei tre, insomma, che ci stava al gioco, ho messo guinzaglio, l'ho fatto camminare a quattro zampe. Addirittura. Sì, sì, sì, sì, gli piaceva. D'accordo, quindi mi sono d'accordo inventata in questo ruolo di mistress. Lei mi ha detto che le piace Paragone, no? Come partito, il partito dell'Italia Exit, mi aveva detto che le piace quel tipo di partito. Cioè uscire dall'Europa, le piace l'idea di uscire dall'Europa, ma no? Perché lei dovrebbe uscire dall'Europa? Scusa, lascia che te lo dica io. Però scusami un attimo, lei il fissing contro c'è l'euro, stato? Giusto, la moneta, lei è contro l'euro, giusto? Ma non credo che sia contro ma l'euro. No, sì, sì. Perché? No, no, no, è europeista, anzi, no, lei è aperta, certo, è aperta dappertutto, dunque sarà aperta. Quello sì. Esatto. Scusa, io penso a quel povero cornuto che sta a casa. Posso dirti che sta a casa con il figlio? È poverino, insomma, cazzi suoi, io faccio i miei. Ma che... insomma, signora, io penso a quello. È ovvio, no? Io penso a sto cornuto seduto sulla sedia che dice, guarda, ma faccia l'anima sua, no? Insomma, dai, io penso su ai miei cazzi. Pensa che lei pensa ai cazzi e quello pensa agli affari suoi. Ma come fa poi lei a coricarsi, esatto, dello stesso no, ogni tanto scopate? Parata, ogni tanto scopate, Lea? Ogni tanto scopate? Sì, ogni tanto, molto di poco, tanto in tanto. Molto sì, poco, molto poco. All'anno quante volte? Beh, adesso non è che sto più o meno una volta al mese, una volta al mese più o meno uno, pensa due, te se, se per caso ascolta la Zanzara. No, non credo, non credo, non credo, perché no, altrimenti non sarebbe, non sarebbe venuta qui a parlare la signora Slade. No, Lea. No, infatti. Senti, il pissing c'è stato ieri sera? No, perché comunque si tratta di una mini orgia. Siccome le iene hanno scoperto l'acqua calda da un certo punto di vista, sì, che ogni tanto si fanno le orge in giro o si fanno, sì, le gang bang in giro, e in realtà noi lo diciamo da tempo, nonostante il Covid c'è gente che rischia un po', perché tu un po' hai rischiato, cara, cara Lea, però no, chi, vabbè, se ne frega. No, tutti amici conoscenti, è quello, beh, ho capito, sì, che ne sai, comunque nella norma, ma con le dovute cautele. E quali sono, sì, le cautele? Uno si fa inculata da tre persone, quali sono le cautele? Scusami, scusami se te lo dico, no, per carità. No, vabbè, con mascherina. Cioè, ti sei fatta inculare da tre persone con la mascherina, scusami se te lo dico, ti sei fatta penetrare. Sì, da dietro, ovvio. Cioè, avevano la mascherina, ho capito. Vabbè, però mi sembra il minore, posso dirti che mi sembra il minore dei problemi a me. Cioè, adesso, veramente, io che sono un rigorista, però la situazione... Ma il pissing c'è stato o no, il pissing? Ma che no, tu il pissing non c'è stato, anche perché poi si doveva fare in fretta, basta. Ah, solo per questo, dunque, il pissing... Qualcuno anche non era nella zona, anch'io, e per cui abbiamo fatto abbastanza in fretta. Comunque, a me mi fa impazzire. Slev, Lea, ti giuro, mi fa impazzire. Ma a casa di chi era sta roba? A casa di amici, ma saranno cazzi suoi, non è che ti deve raccontare i dettagli. Vuoi sgominare le gang bang in giro per l'Italia, no, Davide? No, vuoi, no, no, dire alla polizia di andare a sgominare, no, no, le, no, gang bang? Mi incuriosisce il fatto della signora che dice, sai, al marito che non so come si chiami, Antonio, Giuseppe, caro Giuseppe, facciamo Antonio, facciamo Giuseppe, che mi piace di più, facciamo, sì, Giuseppe, va? No, ma perché? Caro Giuseppe, facciamo Giuseppe. Ma io sai che sono contento, in realtà. Mi piace, sì, lo so, caro Giuseppe, io stasera esco con le amiche, e quello gli dice, ah sì, brava, dove vai? Tu non vai, c'era fuori, e cornuto, non sa che i ristoranti sono chiusi. Io in casa. Però scusami, Slev Lea, io voglio chiederti una cosa, ma non sarebbe più, io sostengo anche nel mio libro che chiamasi Nudi, come titolo Nudi, 50 che, euro. No, non è 50 euro, sì, sì, 52. Cioè, io sostengo che il marito è meglio che lo sappia, cioè non ti è mai venuta la voglia di dire, guarda, a me piace farmi inculare da 4, 5, 6, 7 maschi insieme, perché riesco a godere, no, solamente con l'ano, facendomi per... no, perché la tua caratteristica è questa, tu godi solamente, sì, esatto, e col pissing addosso, giusto? Beh, col pissing addosso. Anche, sì, mi piace, e il bucacche, ti piace il bucacche? Questo non ho limiti, assolutamente. In che senso non hai limiti, scusami? Che faccio tutto, qualsiasi cosa. Non ho mai detto di no a nulla. Già, vai, qualcosa dirai di no, dai, su. Cioè, adesso, una cosa molto estrema che hai fatto, che cos'è? A parte questo. Ma per adesso non mi è mai venuto in mente nulla. A me sembra già allucinante quello che fa adesso. Cioè, ancora il bucca, di più, il bucca che l'hai fatto? A sì. Ieri sì. Ah, ieri sì, cioè, sono venuti tutti in faccia così. Cioè, sì. Sì, questi, sì, questi tre, beh, erano tre, diciamo, non erano sì, manco troppo. Sì, anche perché tutti poi dovrò andare via, chi è destra, chi è sinistra, sì, e quindi facciamo, boh, una cosa alla veloce. Facciamo una venuta collettiva, cioè facciamo una venuta arrivi, collettiva. Arrivi, tiri giù e tiri su e vai. Esatto. Scusa, io voglio capire però una cosa dalla signora Slev Lea. Non ti è mai venuto l'idea di condividere questa cosa con tuo marito? Perché io sono un grande sostenitore di questa cosa, della condivisione, della condivisione. Anch'io, però bisogna avere un partner con la mentalità giusta e non è facile. Ma non ti è mai venuto in mente di lasciare, per esempio, di cioè non andiamo d'accordo su questo punto, ci lasciamo, no? No, no, perché per il momento no, vabbè, c'è una famiglia, tutto quanto, perché dovrei, sì, farlo. No, ma hai ragione, ma per carità, ma quindi vive una doppia vita. No, non capirebbe, solo perché comunque secondo me non è facile trovare una persona con la stessa mentalità. Non c'è dubbio, scusami mentalità, un attimo, ma tu godi, direi, no? Tu godi con la vagina, con la figa, godi o non godi? No, praticamente poco, no, poco, quasi no, poco. Parezzo, no. Però è abbastanza strana questa cosa. Sono problemi. Praticamente non sì, viene sì, mai con la vagina, sì, viene solamente ma col culo. Che cosa me ne, ma a me che cosa me ne frega, francamente? Ma perché che cosa magari mi interessa? Ma venite una gang di questo. Venite, ma ve l'ho detto anche un'altra volta. Ma per carità, ma perché? Carità, è un'esperienza. Ma per carità, è un'esperienza. Scusami. Adesso gennaio, appena si può, MasterChef mi organizza una bella gang. Scusami un attimo, ma ti piacciono solamente tutti invitati? Ti piacciono solamente dotati oppure vanno bene tutte mamma le misure, diciamo. Mamma ma no, funzionanti. E che ci sia un cervello. Beh, un cervello adesso parezzo, su questo cervello. Su questo vorrei che intervenissimo. Scusi signora, mi perdoni. No, io accetto un tutto. No, perché io, altrimenti non io, funziona nulla se non signora, c'è un cervello. Io accetto tutto, ma dubito che durante queste cosiddette performance si discuta di Kierkegaard, ma no, spina, capito, sì, per una volta sì, la seconda no. E del legno storto dell'umanità di Immanuel Kant. Io dubito l'intelligenza. il cervello non è io non penso che lì si misura l'intelligenza in quei contesti. No, però si vede una persona come si pone seduta di un cervello meno. Scusa. Cioè, come dire, tra uno che c'ha il cervello e uno che è mini dotato, chi preferisci tu? Uno che ha cioè, tra uno che ha cervello, sicuro. Cioè, uno col cervello mini dotato è meglio di uno dotato senza cervello? Eh beh sì. Ma no, ma ho capito, uno col pisello di, che ne so, di 7 centimetri, 9 centimetri. Ma vabbè, 7 centimetri non lo sento neanche. Ma ieri quelli là, quelli di ieri, il massimo quant'era? Mamma mia. Ma un paio erano ben dotati. Un paio ben dotati. Sì, questa non è che male. Tragedia, ragazzi. Tragedia. Ma la signora, beh, come passatempo, visto dopo tutta questa clausura, ci stava anche. Comunque, eccezionale. Le gang bang nascoste, che non sono nascoste in realtà, perché queste cose qui si fanno ancora, tranquillamente, si faranno anche in ma questi giorni di clausura. Dai, su un minimo di rischio, uno per il sesso se lo prende, cara Slave, no? Diciamo la ma verità. Ma anche perché tutti lo fanno. Non dichiarato, ma tutti lo fanno. Senti, ma tu il pissing, per esempio, come ti piace il pissing? Ti piace, diciamo, sì, solamente addosso oppure anche in bocca? Questo è molto interessante come pratica. No, lo faccio anche in bocca, sì. Anche in bocca, Parenzo. E questa sì, è anche... L'altro giorno Gottardo... Che cazzo è? La voce registrata questa, che vuol dire? Ciao Lea, ciao. Grazie a voi. Ciao, buona ti abbraccio, serata. A presto. Ciao. Un abbraccio. Tutto vero, ragazzi. Intanto Gottardo è impazzito. Senti che ci manda Gottardone. Forse siamo riusciti, ragazzi, a evitare Conte per quelli del podcast. Ce l'abbiamo fatta. Ancora non c'è la conferenza stampa. Avanti tutta. Manca poco. Vai, Gottardo è impazzito completamente. Senti Gottardo. Sì, ma si può ascoltare tutta sta pausa. Vero. Cosa dici? Senti, cosa dici? Una conquista. Dai, 20 minuti è troppo poco per scopare, è troppo per aspettare. Ma è un uomo. Una trasmissione come la Zanzara. 20 minuti è troppo poco per scopare, disse Francesca da Roma, che per coincidenza ho incontrato a Roma. Ma è agghiacciato, un esibizionista assoluto. Ma è un uomo questo qua. Senti, Gottardo, che poi fa ascoltare no, il quiffing vaginale di Francesca da Roma. Non ci, ma è un esibizionista. Ma... ormai ma è pazzo. L'abbiamo perso completamente. Perché fai? Ma non io. Ma non fate mica così quando Gottardo parla delle sue, come dire, sue conquiste. No, in questo caso Longoni è vero. Tu ci credi? Tu credi che questo suono sia autentico? Assolutamente, sì. Ma sì, dai, sì. Ma non è vero. Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Sì. È tutto vero. È tutto vero. Ma è impazzito come te. Hai creato un mostro. Io, che cazzo. Ma hai creato un mostro. È un mostro. Emiliano da Roma. Vai, che chiudiamo senza Conte. Avanti tutta. Vai, dimmi. Grande. Tra poco il premio, dimmi. Chiudiamo senza Conte, però vorrei cortesemente da Parenzo. Sì, però vorrei chiudere sentendoti, ascoltandoti bene. Emiliano, mettiti bene quel telefono, ti prego. Dai. Bene, ok. Dai. Allora, Parenzo, cortesemente, io posso capire un governo che si è trovato il coronavirus in mezzo ai piedi e ha sbagliato. Questo è giustissimo. Invece? Ti dico anch'io. Dopo i rotelli e tutto, ma mi spieghi com'è possibile che il 18 alle 20 ancora non si sa se un ristorante che ha già fatto spesa deve buttare tutto su o questo no. Hai ragione. No, su questo hai ragione. Emiliano, io non so se c'è il ristorante o no, ma ti dico butta su tutto. Se è il ristorante butta tutto, poi ma forse... non gli puoi dare 6,5, per favore. Emiliano, il voto di Parenzo è 6,5 al governo. Incredibile. Lorenzo da Modena. Su certo che ha ragione. Lorenzo, dire, dai, certo, dimmi. Parenzo, mi senti? Sì, vai no. Lorenzo, vai. La maggioranza silenziosa è con te, ti appoggiamo completamente. Volevo fare riferimento, interrompendo questa parentesi, prima di piedi, fetish, bondage e tutto quanto, dell'intervento precedente della signora, la famosa mamma, delle cazzate senza precedenti, l'antivaccinista, cioè, l'antivaccinista, delle putanate senza precedenti, cioè persone del genere non dovrebbero neanche avere la possibilità di accedere all'internet, andrebbero proprio abolite e passate dalla... questa è la tua idea di democrazia perché io sono molto democratico, ma non rompere i coglioni, uno ha il diritto di dire quello che vuole, di pensarla come vuole, di postare quello che vuole, ma come no, ma certamente sì, uno ha il diritto di essere antivaccinista, ha il diritto di essere essere anti-Europa, anti-euro, anti-tutto. Ma chi l'ha detto? Non si può essere anti-sinistra. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sosteneva? Che siete matti? Ma dove, qual è? No, uno no, parte no, con no, l'idea no. di dire che uno che è contro i vaccini non può parlare e arrivi a quelli che dicono contro le chiusure non si può parlare. Ma che c'entra questo? Ognuno legge e ascolta quello che vuole. Ma che vuoi limitare la libertà su questo? Persino Parenzo su questo ti dice che uno ha la libertà di essere contro il vaccino. Dai, questo ci mancherebbe e altro. Allora, non diciamo io, ci mancherebbe trovo che altro. Non, io trovo che in una società democratica dove tutti allora appunto democratica appunto? È democratica, però se io non mi vaccino io creo un pericolo per l'altro. Ah, questo è sicuro. Ma quello che questo c'entra è un altro discorso. Infatti questo è sicuro. Fermola, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.